Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sì, chi è? Sì, ciao, trovo il numero sul sito, lo sapete dove ti trovi. Ma quale sito, scusami? Escort Advisor. No, Escort Advisor non è possibile. Ma non sei in Pamela? Ma quale Pamela? Ma di che cazzo stai a parlare? Pamela, ma che dici? Ti rendi conto che io sono un uomo o no? Come posso essere Pamela? Beh, dovresti essere Pamela anche. No, non sono interessato, grazie, scusa. Scusami, perché non sei interessato? Scusi, chi è lei? Lei è sposato, scusi? Scusi? Chi è? Pamela? No, non sono sì. Pamela, non sono Pamela. Guardi che hanno messo il suo annuncio. Ma dove l'hanno messo questo annuncio? Dove l'hanno messo? No. Escort Advisor. Ancora con sta Escort Advisor, che cosa hanno scritto? Ciao, sono Pamela, la ragazza di Tola Spagnola, sono guardi che paziente. 100% reale. Bellissimo massaggio, sensuale e passionale, tutta da gustare, faccio con calma, nessuna fretta. Chiamami, quello che vedi e quello che troverai. E che si vede? Senza fregature dietro la porta, ti aspetto. Sono acqua e sapone, mi dispiace. Escort Advisor numero 3480 eccetera eccetera. Allora, No, non lo dire tutto, non lo dire tutto. 3480 un attimo. Ma che ci vuole cercare il numero? Questo è veramente. Poi capisci perché questa gente va a puttare, che capisce niente, non è in grado neanche di leggere il numero di telefono. Sì, ancora. Ok, ho capito, bene. Grazie, arrivederci, grazie, arrivederci. Pronto? No, ancora con sta Pamela. Non sono Pamela, cazzo. Non sono Pamela. Scusa, ma io chiamavo per parlare con una femmina. Ho capito, ma dove ha trovato l'annuncio? Ma chi siete voi, il pappone? No, non sono il pappone. Ti assicuro che non sono il pappone, amico mio. Non sono il pappone. Hanno dato. Dove l'hanno messo il numero di telefono? Dove l'hanno messo? Escort Advisor, l'ho preso. Tu hai ascoltato Advisor? Perché ti piace questa Pamela? Perché ti piace? Perché ha due belle tette. Lo so, ma io non ce l'ho le tette. Non ce l'ho. Ciao, amico mio, ciao, ti abbraccio. Ciao. Ascolta, dimmi. Ma tu la conosci? Ma non la conosco. Ma questo è un maiale, lei è un miserabile maiale. Non la conosco. Ciao, ciao amico mio, ciao. Ciao, non ma so. Scusa, il 348. No, ecco, non puoi qua, dire il numero, sì, non sì, puoi sì. dire il numero. 348. Non lo puoi dire il numero. Non mettete l'annuncio. Quanto chiede sta Pamela? Quanto chiede sta Pamela, scusa? 100 euro, c'è scritto. 100 euro, potrei anche praticamente. Ma culo niente. Culo pure c'è scritto. Ma tu sta a Milano, io sono arrivato in moto. Ma ho capito, no, io sono a Milano, ma questa Pamela non so dove cazzo è. Trovatevi, questa ti insieme un io po'. Io la conoscete a Pamela. No, non la conosco, mi dispiace. Secondo me voi siete il pappone. Ma non sono il pappone, ti posso assicurare. Ma prendete in giro la gente. Ma non pigliamo in giro la gente, purtroppo hanno pubblicato un numero che non è mio. Ma facendo la fase della dare pure una botta. Ciao, buona oh, benissimo, ciao, ciao, benissimo. Ciao. Pronto? Pamela? Una delle puntate più belle di sempre. Speriamo che continuino a chiamare Cruciani, anzi Pamela. In diretta dagli studi di Roma, in diretta, ancora non so per quanto in realtà, dagli studi di Roma, il signor Davide Parenzo, applausi, applausi, applausi. Buonasera, buonasera cari amici, una giornata. C'è sempre sta voce nel cazzo, porca puttana, che ci fa venire due coglioni una così, giornata, ma che ti è passato un camion sopra? Una giornata cosa? Contraddistinta sostanzialmente. Sei la persona più protetta d'Italia, sei. Contraddistinta sei sostanzialmente da due notizie che vi voglio avanti, segnalare. Dimmi, quali sarebbero le notizie? Avanti, la prima, la Germania andrà in un lockdown light dal 2 novembre. Portavoce della Merkel, bar parla, e ristoranti sì. chiusi. poi Merkel poi parla di giorno duro. Sì, di giorno poi vai avanti. Duro. Seconda Premier notizia. Conte dice: mamma in Italia siamo allo sci. Sai che mi sto per toccare i coglioni? Non Conte è in collegamento da Abano, ma è in piazza. Pensate un po', tu Esor, vai ai matti, vai ai matti. È in piazza a protestare con i ristoratori. È in piazza a mangiare perché quello è a dieta. Beh, è una vergogna perché quel ciccione lì, perché bisogna dire le cose, che è dimagrito, sì, di 10 kg, siamo tutti felici. In realtà è in piazza con i ristoratori perché fa la doppia marchetta, perché poi i ristoratori gli mandano a casa i piatti di pasta. Questo è ormai un marchettaro, questo è ormai. Giordano, c'è la rabbia vera. Chiamalo c'è al telefono. C'è la rabbia vera, senti. Sì, Giordano, senti, non vedi allora, Giordano. Ma se qualcuno pensa attraverso quattro delinquenti di cancellare la rabbia vera, sincera, silenziosa, per bene, di tanta gente per bene, ebbene sbaglia, perché quella rabbia c'è, è vera. Mi fai vedere le piazze che abbiamo visto nelle ultime ore, Donato? Ecco qua. Vai con le piazze. Pescara, no. Trieste, Catania, ma potremmo dire Milano, Roma, tutta Italia. C'è tanta gente per bene che scende in piazza e c'è una rabbia vera. C'è una rabbia vera, caro David. C'è una rabbia vera, esistente. Non quelle cose che ti fanno vedere dei violenti. Non quelle robe è in lì. In questo momento. Non quelle robe lì che ti fanno vedere dei violenti. Hai capito o no? Sì, ho capito. E come? Ho risposto a una centralinista che mi ha chiamato per il gas a casa. Ma ho detto: mandate a quel paese che sono la radio adesso. Ma mandavi in onda? Perché non l'hai mandato in onda? Stavo mandando in onda, ma tu hai chiuso evidentemente il microfono. Culo, non so la, realtà è, la realtà è questa. Che la c'è la gente. Sì, appunto, ti dovrebbe entusiasmare questa situazione, no? Ti dovrebbe entusiasmare con un sacco di piazze in movimento, gente in movimento, gente che vuole manifestare. Ancora non c'è il morto, vero Carlo? Ancora non ci sono i morti. Naturalmente la situazione è ideale. Erano anni, naturalmente, che non c'erano dei format naturaliter. Cioè, come che vuol dire, scusami? Format che non c'è neanche bisogno di scrivere, perché la storia si scrive da sola. Io non capisco questa Rai, naturalmente, con questi programmi, tutti questi virologi che continuano a parlare. La curva del contagio sale. Fallo vedere come sale. Infetta, naturalmente, inizia a farla vedere. Sì, questa certo. Idea di raccontare. La televisione si chiama televisione. No, quindi che bisogna fare? Infettare l'Italia, infettare sempre di più. Dunque, io avevo un programma molto semplice, sì, già a settembre. All'inizio, sì. All'inizio di questa trasmissione proposi naturalmente di accelerare il contagio, naturalmente, in televisione però. E quindi mettere il virus a contratto, questo ho proposto alla RAI sostanzialmente. Sì. Naturalmente ho proposto all'amministratore delegato, molto semplice, sono andato in RAI oggi e ho proposto all'amministratore delegato di fare un contratto al virus, sì. Al virus, al Covid naturalmente, un contratto di almeno 2 anni con l'opzione di più uno naturalmente. Per poter, perché adesso questi dicono abbiamo trovato il vaccino, sì, pericolosissimo, no. Sì, sì, trovare il vaccino naturalmente, sì, sì. È una delle cose più pericolose che possono accadere, perché vuol dire che allora torna Montalbano se c'è il vaccino, che avete capito o no? Col Vaticano, Montalbano, poi torna lì quell'altro prete con la bicicletta, Don Matteo, no, allora naturalmente questo, ho detto sì. Bisogna evitare il ritorno naturalmente di Montalbano, della normalità. E ho detto immediatamente: fate un contratto a questo signor Covid-19, naturalmente. Questa è venuta così. Naturalmente. E mi hanno detto che sono pazzo. Ho detto: voi siete pazzi, naturalmente. Non avete capito che l'America ha già comprato i diritti, la Cina pure. E noi siamo qui ancora a parlare con Galli della curva. Non funziona più ormai, Galli. Dai, io lo spiego. Quello che funziona naturalmente è questo Covid-19. Che tutti vogliono trovare, naturalmente. Bisogna mettere sotto contratto. Che nessuno, fare un contratto immediatamente, naturalmente. Per la RAI. Se no poi arriva a Cairo e fa lui il contratto. Bisogna essere più veloci, io l'ho detto 1000 volte, dai, e non mi ascolto, le vado a fare il consulente alla 7 o a Mediaset adesso, perché mi hanno stufato questi qui. Ti dicono è immorale, indegno quello che dici, indegno. Ma c'è, come si fa a fare il contratto al Covid? Questa è una buona domanda, naturalmente, va individuato, gli va fatta una proposta strutturale, naturalmente. 2 più 1, 2 anni più 1, naturalmente. Il famoso 2 più 1, naturalmente. Fermi tutti, grazie. Penso. Carlo Fusaro, prego. Solidarietà palestra e piscina, come scusa, la parola di filosofia di Hegel, solidarietà palestra e piscina. Ma fanculo, dai, tu e Fusaro, da fanculo. Vogliamo portare la nostra più sentita solidarietà ai ristoratori, che sono la grande eccellenza italiana, alle palestre, alle piscine e a tutte quelle categorie che questo pavido e irresponsabile governo giallo-fucsia con il nuovo DPCM del 25 ottobre ha scelto di mandare al macello. Fusaro, io in questa cosa sono con te, la dirò grossa, caro David, la dirò grossa oggi. Sono col filosofo della zanzara. Sì, sì, sì, su questo sono col filosofo. Prego. E vorrei che tu dicessi qualcosa a Cristiano Ronaldo. Vorrei che tu dicessi qualcosa. Ah, Cristiano Ronaldo. Guarda, 241 milioni di follower, credo. Ripeti, 241 milioni di follower. E ha detto, e ha detto sostanzialmente che i tamponi sono una stronzata. È un imbecille. È un imbecille. Non puoi dare l'imbecille a Cristiano Ronaldo. È uno che usa la propria popolarità. Uno che usa la propria popolarità per dare aria al cervello. È una ha detto che i tamponi sono una stronzata. È una cazzata. È una ragione. Si deve vergognare. Pensasse a fare bene il calciatore con i miliardi che guadagna e se ne stesse zitto invece di parlare di cose che, di cui non sa nulla. Ignorante. La sorella è negazionista, bisogna dire questo. Una piccola negazionista, la sorella del zio Cristiano Ronaldo. Dice che i tamponi sono una cazzata, cioè che possono valere, alcune volte dicono cazzate, come è dimostrato. Dice è una cazzata. E tu gli dai dell'imbecille. Gli dai dell'imbecille. Certo, ma senza possibilità di essere smentito. Perché uno che usa la propria popolarità per mandare in giro, diffondere, propalare fake news è un idiota. Che tu sia maledetto. Appunto. E appena stata mia moglie mi ha detto abbassa sta trasmissione, che adesso c'ho una riunione online. Che figura di merda che mi fate fare ogni volta. La zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Oggi 28 ottobre, ore 10 e qualcosa, 10:30, e ancora non c'è il podcast di ieri sera, del 27, ma siete veramente dei coglioni. Buongiorno, un cazzo, iniziamo così. Scusate la volgarità. La Clementi questa, la Clementi. Non ho chiuso occhio. Già sono al quarto caffè e non mi va di alzarmi per andare ad aprire il mio negozio. Vabbè, ho capito, perché questo, mi hanno disdetto gli appuntamenti, comprensibile. Siamo stati mezz'ora a telefono con i clienti. Cioè, capito? Vai avanti con la Clementi. Che tu hai insultato, che tu hai denigrato l'estetista, la nostra estetista di fiducia, la Clementi. La gente disdice gli appuntamenti perché è terrorizzata. È terrorizzata di prendersi il virus. Questo purtroppo... La gente è terrorizzata dall'idea di prendere il virus e smette di lavorare, smette di vivere, smette di andare in quei posti che ritiene superflui. Mentre tutto è superfluo nella vita, molte cose sono superflue. Con questa scusa, prima la salute, ma prima la salute un cazzo! È una scusa del cazzo quello di dire prima la salute. È una roba che diceva mia nonna. No, lo dici dire, anche tu, mia nonna mi diceva, però pensiamo prima alla salute. Dico quando si diceva una volta, sì, prima certo, pensiamo soprattutto alla salute. Ma che cazzo vuol dire? Pensiamo soprattutto alla salute, è un ragionamento? Lo può fare Speranza? Un ministro che deve organizzare, porca puttana, è un tema prima politico, la salute, ma vaffanculo, va. Aprirò soltanto ad appuntamento perché risparmio la corrente, la bolletta è aumentata e quindi che vado ad aprire, risparmio la corrente. Sti disgraziati non è che ci hanno dato già un incentivo per il mancato guadagno, qua siamo rovinati. Anzi, dovremmo scrivere tutti buongiorno un cazzo, questo dobbiamo scrivere. Perché questo governo di incapaci, questo governo di fitusi, si deve assumere la propria responsabilità. Poi dice che devono andare tutti in piazza, anche i direttori di banca. Ma cazzo c'è il direttore di banca? Nulla. Cosa ti sento? Chiamate commercialisti, chiamate consulenti, che dobbiamo fare per l'attività? Ci sono questi fondi? Provvediamo. Non ci sono? Allora vieni con me a Montecitorio, vieni a dire a Di Maio, a Conte, anche con i direttori di banca. I direttori di banca devono scendere insieme ai cittadini a Montecitorio, nelle piazze, a dire: questi fondi si danno così, così, così. Noi che poi quando arriva lì con una come me dice: la garanzia, però ci vuole questo, però ci vuole quello, però ci vuole il fatturato di prima. Ma se è andata male già un anno, che cazzo di fatturato vi devo dare? Allora ragazzi, come sapete i virologi litigano tra di loro, alcuni dicono che ci vuole l'immunità di gregge, ha accennato questa cosa Ilaria Capua, un'altra dice una stronzata pazzesca, cioè ormai non si capisce una beneamata sega. Oggi la von der Leyen, non so chi è dell'Unione Europea, Ursula, ha detto... Ursula, come chi è? Sì, non lo so, lo sai tu come chi è? Uno dei Ursula capi von der Leyen, uno dei capi, dell'Europa. Il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. 50 milioni di dosi di vaccino, sì, ad aprile. Perché l'Europa, ma come che tu cazzo sai, ne sa che non lo sa nessuno? Firmato degli accordi con le aziende farmaceutiche, ma non sai niente, non tu ma tu non sai niente, cazzate, io non ho sa. Tutti i falsari, tutti coloro i quali hanno sparato contro l'Europa, senti, e tu senti sei tra Galli questi. Che dice, senti Galli che dice, certo, l'Europa no, ha firmato Galli, dei contratti con le aziende farmaceutiche, senti Galli, ma nessuno sa se ci sarà un vaccino, se funzionerà, e lei dice certo che verranno diffusi 50 milioni ad aprile, ma che cazzo ne sai, dai Galli prova che chiudere i ristoranti, cioè non c'è la prova che la chiusura dei ristoranti possa servire a qualcosa. Cioè Galli, che è uno di quelli che dice, beh, che ci vuole un lockdown più duro, esatto, che ormai esatto, bisogna esatto, chiudere, esatto. Dice però, beh, la prova che chiudere i ristoranti non lo sappiamo adesso, allora questo che... lui ha sempre detto ci vogliono provvedimenti più duri, senti. Avete ragione, la prova provata che chiudere il ristorante, chiudere il teatro, chiudere il cinema sia un valore aggiunto sicuro, non ce l'abbiamo. Noi abbiamo una sola prova provata: il lockdown totale ha funzionato. Ragazzi, questo ancora col lockdown, io ti voglio bene, il lockdown totale, l'unica soluzione è il lockdown, ma vi rendete conto che siamo arrivati all'unica soluzione? Non lo so, non governo io, ma non può essere questo, e giustamente c'è un sacco di gente che si ribella. Allora, alle 20 noi ci collegheremo in diretta con Macron, alle 20 ci collegheremo in diretta con Macron, fatemi sentire, e cercheremo di capire in Francia il lockdown totale che sta per arrivare. Sui teatri, sulla si comportano come Goebbels, senti. Di dissuadere le persone è un intendimento talmente volgare e talmente violento sul piano psicologico che serve a creare una situazione di tutela dove non serve, e in realtà ha un obiettivo diverso, cioè sono operazioni che hanno a che fare con quelle di Goebbels e di un mondo in cui si cerca di forzare il pensiero delle persone. Perché andiamo in Parlamento? Perché non chiudono il Parlamento per un teatro con tante persone che stanno l'une vicino all'altra e possono contagiarsi essendovi dei contagiati. Chiudiamo il Parlamento, abbiamo il coraggio di dire: se vogliamo chiudere i teatri e il cinema, chiudiamo il Parlamento. No, vi faccio sentire un'altra cosa, poi passiamo agli ascoltatori. La cosa più ridicola del mondo oggi di Conte, rispondendo credo in Parlamento a qualche interrogazione, dice che c'è un'oggettiva difficoltà di assicurare le misure di sicurezza nei trasporti. Cioè, ha aperto un tavolo per la criticità dei trasporti. Oggi che giorno è? Io vado ai matti, il vento... Ha aperto un tavolo questo per la criticità ritardo. Dei trasporti. Questo è un colpevole ritardo. Il 28 oggi, che cos'è? Il 28 di ottobre. Ha aperto un tavolo per la criticità dei trasporti. Da chi siamo governati? Da chi siamo governati? Istituzione di tavoli sulla criticità. Ragazzi, l'istituzione dei tavoli, ma è una cosa... Giordano, dove sei? Ecco, dove sei? Il suo amico, Giordano... si chiama il suo amico. Istituzione di tavoli sulla criticità dei trasporti. Quello senti, è bravo, solo ti prego, urlare. Senti questa cosa. Ha ma istituito tu, scusa, un tavolo sulla criticità domanda. Dei trasporti. Tu ti faresti governare da Mario Giordano? Sì. Ecco, più che da Conte, sì, benissimo, assolutamente. Io a quel punto meglio scappo Giordano da Bolsonaro. Di Conte. E io meglio a quel punto Giordano vado di Conte. Da Bolsonaro. Meglio a quel Giordano punto. Di Conte. Meglio quel Giordano vado di da Conte. Bolsonaro vado. Il governo ha confermato l'istituzione di tavoli operativi permanenti tavoli per la risoluzione permanenti. Delle situazioni di maggiori criticità. Ma ragazzi, ma non è possibile, dai. L'istituzione di tavoli per maggiori criticità. C'è un'oggettiva difficoltà di assicurare le misure di sicurezza. nei trasporti, lo sappiamo, lo vediamo ogni giorno, dalle immagini, dai telefonini, dalla gente che fa vedere le persone ammassate nelle metropolitane. Ti prego. Ma è evidente che a dispetto delle varie iniziative, degli investimenti, delle misure adottate, dobbiamo riconoscere un'oggettiva difficoltà di assicurare che le regole di distanziamento certificate anche dai protocolli, pur severi, di sicurezza, siano sempre rispettate da tutti gli utenti dei, dei servizi di trasporto nel corso dell'intera giornata. Mamma mia, Marco dalla provincia di Milano, vai, Marco dalla provincia di Milano, incredibile, vai Marco, dimmi, dimmi. Allora, sì, sono Marco da Milano. Dimmi, dimmi Marco, dimmi, dimmi, dimmi. Allora, io volevo esprimere la solidarietà a Parenzo, che è una persona regionevole. Purtroppo ha a che fare con gente che continua a veicolare un messaggio pericolosissimo. Esatto, io non ho capito perché, per quali ragione venga veicolato questo messaggio, cioè i dati sono sotto gli occhi di tutti, e tu continui, tu Cruciani, ce l'ho con te, e continui a menarla con sti cazzo di ristoranti. Allora, è stato varato un decreto, hanno fatto spendere dei quattrini, un sacco di quattrini ai ristoranti, senza fare un cazzo, e adesso li mettono di nuovo in mezzo alla merda, facendo credere che ci sarà un ristoro. Vediamo se ci sarà denaro contante, quanto denaro sarà. Cosa vuoi da me, Marco? Che cosa? Io non sono negazionista, non mi rompere i coglioni. Tu non sei negazionista, devi veicolare un messaggio pericoloso. Aspetta, fermo un attimo, fermo, pronto? Che incontri? Non ho capito, scusa. Ah, non sei Clara, ho trovato il tuo numero su, ma che incontri? Clara, ancora con sto numero? Non sono io, porca puttana, non sono io! Scusi, lei è sposato però? Ma porca puttana, ancora questo numero. Ma lei è sposato, perché lei cerca di... Ma se uno vuole... Ma perché... Io dico, dove l'hai trovato? Aspetta. No, no, non te lo passo. Dove l'hai trovato? Dove l'hai trovato? Questo numero, dove l'hai... Incontri zona Riccione. Zona Riccione pure. Oggi pomeriggio. Sì, il numero 348 è il numero, basta, non dire più, è solo 348. No, fermo. Non ho capito. 348 è il numero, 348. Tu c'è, sì, è Clara che c'è scritto. No, 348 cosa? E poi che cerca? Clara, che cos'è? Clara cerca ragazzi bogliosi con carte sopra i 20 centimetri. Ma io non lo sapevo. Io sono 21. Sì, vabbè, vai a fare in culo, vai. Ma lei è sposato, ha fidanzate? La Zanzara. Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'8-0024-0024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701. Veterinaria a capo ha cambiato di nuovo idea, adesso il vaccino non è più importante, adesso bisogna arrivare alle multe di gregge. Va bene, Parenzo, tu cosa fai adesso? Crucià, io vendo macchine, questi pensano di indennizzare solo i ristoranti e i bar, ma intanto io sto perdendo le vendite perché cuochi, ristoratori e tutto quanto non comprano più. Ieri un Jaguar non l'ho venduto perché questo qui era cuoco. Ristori che poi tanto non arriveranno mai, quindi andatevi a chiudere, bisogna andare via. Paese, via, via, via, via, via. Che tu sia maledetto, che tu sia maledetto. Questa è la Zanzara, amici miei, questa è la Zanzara e voglio ringraziare Zanzara Meme, credo che si chiami così, che ha regalato a questa disgraziata redazione, compreso te Parenzo, questa maglietta qui che io indosso, molti mi possono vedere nella webcam sull'internet. A me non hanno regalato niente, quindi vado da quel paese. Come vado da quel paese? Hanno regalato anche a te. Allora sono brave persone, amico ma io mio, me lo così, siete intascati. Amico mio. Però io intanto voglio i diritti, perché la parola amico mio l'ho inventata e portata questo io qui. Questo è vero, qui, anni fa, sì. Tantissimi anni fa, mutuata io te stesso. Te lo ricordi da... com'era? Amico mio, no. No, non era così. Amico mio, era Lenzi. Signor Lenzi, amico mio, poi è stata cambiata nel tempo. È stata cambiata nel tempo, però è mia e quindi chiederò immediatamente i diritti a questi ragazzi qua che hanno fatto la maglietta. Non ho capito, amico mio, con la mia faccia dietro. Volevano pure. Chiedo i diritti. Hanno chiesto il permesso per la mia faccia. Ho detto fate pure. Farti pagare. Tu ti fai pagare per tutto. No, per tutto. Aspetta, calma. Per tutto. Per tutto, no, dipende. Cioè, se alcuni ragazzi vogliono invitarti a cena, per esempio, tu ti fai pagare. Sì, molto volentieri. Vengo. Quanto tempo devo stare? Gli dirò. Allora dice: stai un'oretta, va bene, dai, per 400 euro vengo. Se 400 volete. Euro? 500 per andare dai, a cena, porca puttana. Se no, questo a cena a casa mia. Scusa, ma che cazzo vuoi? Ma scusa, mi vuoi a cena? Paghi se mi vuoi a cena. No? Ma anche mia moglie paga con 100 euro di presenza. Tu lo anche sai lei? Che ieri? Tu lo sai che ieri. Natalia, Giordano... quando vuole andare a cena, gli chiedo il 100 euro di presenza. Sempre. Tu lo sai che Giordano, ieri a un certo punto, ha detto: ma andate a quel paese, cioè ha mandato a quel paese Conte. C'era Conte raffigurato con un enorme. Giordano, a quel paese da un genio assoluto. Mi sono inchinato di fronte al genio. Sei inchinato. No, sei, ho detto, pazzi, Mario, sei un genio. Detto, sì, ho detto, sì, indietro, sei un genio. Cosa non si fa per un argente posto di 3.000 euro a presenza? Cosa non si fa per quella roba? Che cosa non è vergognosa? Ma chi è il governo? Siete voi! Chi è quello che lo decide? Siete voi! E allora mi viene da dire, ma vai, dove erano? Erano col ministro Speranza a scrivere il libro, il ministro della salute Speranza, oltre che andare sempre in televisione. Comunque lo sai la cosa incredibile? Sai qual che è una protesi della Zanzara quella trasmissione? Tu lo sai, sì, ma può essere. È una protesi del crucianesimo resa televisione. Mi rende orgoglioso questa una cosa. Protesi, posso dirti una cosa? Protesi. Posso dirti una cosa? Tu sai che nel libro di Speranza, ritirato vergognosamente, no? Ma non l'ho letto il libro di Speranza. C'era la fine del Covid. Era decretata dal ministro della Speranza sostanzialmente la fine del Covid. Ma questo è chiaro che finirà il Covid. No, ma che eravamo usciti dal Covid. Questa ha fatto un libro scrivendo che eravamo usciti dal Covid. Cioè l'ha quasi diffuso nel distribuito nelle librerie, poi repentinamente ritirato. Con tu che fino al minuto prima dicevi: ma che male c'è a scrivere un libro? Scrivere un libro non c'è male in generale, non mi sembra che ci sia nulla di male a scrivere un libro. Poi se uno scrive delle cose inesatte, risponderà delle cose inesatte che scrive. Tu hai scritto un libro che si chiama Nudi, scusa, che male c'è. Porro. Se non smettiamo di cagarci sotto con il virus, siamo fritti. Era un liberale, no? Se qua non decidiamo di convivere con questo virus e se qua non smettiamo, ma non dico soltanto l'Italia, di cagarci sotto per ogni persona che si ammala, posto che ogni persona che si ammala nel 95% dei casi la risolve a casa senza problemi, beh, se noi non capiamo questa roba qua, siamo fritti. Ah, se chiudete, ridategli i soldi. Minchiate! Perché non basta ridare i soldi. La gente non vuole il sussidio. I ristoratori, il 90% dei ristoratori che conosco io, che sono persone serie, di quel sussidio ci sciacquano la testa. Ma io sono contro anche l'idea del ristoro, perché se tu ristori il ristorante, come vi ho appena detto, tutti quelli che stanno intorno a quell'ecosistema, la via, la piazza, il ristorante, cioè possiamo ristorare tutti e poi toc toc! I 5 miliardi chi li paga? Ma qua siamo dei fenomeni. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, ma per quale cazzo di motivo i nostri figli devono pagare 5 miliardi per le minchiate che ha fatto questo governo? Per quale diavolo di motivo? Abbiamo speso 100... Andiamo con gli ascoltatori, amici miei, andiamo. Valerio da Roma, poi ti faccio sentire il titolare di una pizzeria avvelenata, perché questa radio qua, anzi questa radio no, ma questo spazio è la voce della libertà, capisci? La voce della libertà, della libertà. Questo nessuno, è il punto la fondamentale. Libertà, tu confondi la libertà con la libertà del contagio, che sono due robe diverse. Ma lascia io anche la sono per dar del voce contagio. Io oggi all'area che ti ho dato voce a tanti ristoratori che erano in piazza a Bergamo, però manifestavano in modo civile, composto, rispettando certo, le regole. Che cosa dico? Non che cosa come dico quel io. Ristoratore che abbiamo intervistato ieri, che ho invitato anche oggi all'area che tira, quello di Pesaro. Gli ho fatto un mazzo anche Valerio oggi. Valerio da Roma, vai, mamma Valerio mia, da Roma. Mamma mia, vai. Come l'ho trattato. Dimmi. Niente, volevo solo dire a quello stronzo di Parenzo. Buonasera, grazie per aver chiamato, mi dica. Cosa? Grazie per aver chiamato, un cazzo, fai schifo. Cioè tu dovresti fare uno stato a tua moglie perché ti fa scopare in primis. Chi è questo signore? Buonasera, chi è? Intanto come si chiama? Chi è questo signore? Si chiama Valerio da Roma. Valerio da Roma. Bene, buonasera Valerio. Che fai di mestiere? Ricominciamo. Grazie per aver chiamato. Di mestiere faccio il pizzaiolo. Il pizzaiolo, benissimo. E come secondo lavoro faccio il rider. Lavoro con Deliveroo. vero. Sì, bene, quindi vai, porta vai a casa delle persone il mangiare, certo. Allora perché esatto, vuoi mandare esatto a fare in culo Parenzo? Non ho capito. Lavoro molto faticoso, che conosco bene. Voglio mandare a fare in culo Parenzo perché fa questa politica del terrore. Io faccio la politica del terrore? Secondo me sì, io? Secondo me tu dovresti avere la Barbara lei d'Urso. Legge, lei legge, lei è una legge, persona lei, di merda. Tu sei, signor, tu sei adatto per un programma da Barbara d'Urso. Ma guarda che ci parla io dalla d'Urso, in realtà, cioè, tanto per essere chiari. A me non mi invita, purtroppo. Dico purtroppo perché lì, ragazzi, te credo. No, no, non perché lì l'argent de poche. Ma tu sei stato a Cruciani perché ti fa lavorare. Ma a lei le piace Cruciani per quale motivo sulla vicenda del Covid? Mi spieghi, perché questo mi interessa la percezione che lei ha di Cruciani. No, in generale, perché comunque. Ma lei, brutta testa di cazzo ignorante, che non è altro, ignorante imbecille che non sei altro, tu sai leggere, tu sei un imbecille ignorante, sai leggere i numeri tu, sai leggere i dati che ci sono. Michele dalla provincia di Potenza, avanti tutto. A un certo punto bisogna dirglielo, calma. Dimmi Michele, dimmi. Ah, Cruciani, buonasera. Sì, dimmi. Senti, ce l'ho con te. Sì. Perché l'altra sera. Sì, questo sembra il coso. Il brigante lucano. Sì, il camionista, brigante lucano. L'altra sera. Non si deve chiamare il brigante lucano. Questo qua si chiama il brigante lucano. Ma tu ti rendi conto? Meglio parlare col brigante lucano che parlare con Draghi. Draghi. Questo non te lo consento in alcun modo. Perché il brigante lucano ti può insegnare qualcosa di vita reale. Draghi ti fa di grandi disegni, ti parla di grandi cose, di potere. Il brigante lucano ci parla della vita reale. Ma comunque, cosa mi volevi dire, Michele? Scusa, non ho capito. Ce l'ho con te, perché l'altra sera, quando ho invitato quella signora che era siciliana, che poi è andata, andata sotto Montecitorio, giusto? Sì, sì, l'estetista. Sì, allora... ho sentito sia alle 7 che poi a l'una di notte. Vabbè, allora sì, sempre, ottimo, sentire la doppietta. Hai preso le distanze, hai preso. Questa cosa mi ha dato fastidio, da te non me l'aspettavo. Ma non ho preso le distanze, ma figuriamoci, ma quella è la mia estetista, l'abbraccio fortissimo, quella vuole lavorare e purtroppo deve subire i clienti che danno le disdette perché sono terrorizzati da gente come Parenzo. Prenditela con Parenzo, non con nessuno. Brigante Lucano, prenditela con Parenzo, che è lì a cagarsi sotto dal virus, che se la fa sotto con la cancarella che esce. Io me la facevo sotto prima a marzo, è vero, adesso non me la faccio sotto. Voglio campare, voglio vivere. Me lo prendo, faccio lo stretto necessario della mia vita. Faccio lo stretto necessario. Ma io non voglio fare lo stretto necessario. Non voglio fare lo stretto necessario, cazzo. Parenzo, tu stai bene economicamente. Aspetta. Ancora questo. Chi è? Pronto? Caterina? Chi? Caterina? Ma non è Caterina, non c'è Caterina qua. Non c'è nessuna Caterina. Dov'è Caterina? Ma con a quale numero hai chiamato? 348? Sì, questo è pazzo, questo è altro matto. Ti chiamano anche la notte a questo punto? Raffaele, provincia di Arezzo, vai. Ma Raffaele, di notte ti chiamano o no? Sì, qualcuno chiama, che ti devi passerà prima o poi? Raffaele, passerà prima o poi, mica posso eliminare il numero di telefono, è una vita che ho sto numero di telefono, non è che lo posso cambiare. Ma no. Non ti preoccupare, che domani inizia la grande controffensiva contro quel coglione lì che sta a Tenerife. Raffaele, dimmi. Spero non sia l'ultima volta, sto male, ho la febbre a 38 ora. C'è la febbre attentata. Tu sei quello che c'ha le emorroidi, sì. Sì, voglio. Infatti, se mi dovesse succedere qualcosa, voglio lasciare una specie di testamento. No, scusa, tu hai 38 e mezzo per le emorroidi, magari. Non è che c'hai il Covid. Cioè, non lo so che c'ho, però mi fa freddo, mi sento formiolato. Ma c'ha qualche parente? No, ragazzi, però non si scherza su queste cose. Fare finta di avere. Hai veramente. No, non mandati il termometro, tu mandavo, ma che finta. Ma hai già un parente, qualcuno? Scusa, perché sì, chiama. Sono stata di Pirina, sto a casa. No, ma no, sì. Allora, uno che sta male e chiama la zanzara, già per me è un malato. Cioè, voglio dire, chiami un parente, un amico, aspetta, un fratello, parlare, uno zio. Vabbè, dimmi, che cosa allora, c'è? Dimmi. Voglio dire, se mi dovesse succedere qualcosa, io ho la cura per le emorroidi, l'ho trovata. Ma che hai trovato, Raffaele? L'ipocastano, voglio il premio Nobel, l'ipocastano. Sì, vabbè, d'accordo, l'ipocastano. Va bene, d'accordo, sei già al delirio perché c'hai 38 e mezzo. Cosa mi vuoi dire, Raffaele? Dimmi. Voglio dire per cortesia, te, che insomma tu mi hai sempre voluto bene. Se mi dovesse succedere qualcosa, fammi titolare un reparto di proctologia, qualcosa. Ancora questa cosa qua, ma c'è dalle emorroidi si guarisce, chiaro o no? Dai, Ascanio d'Arezzo, dai, Ascanio, rivolgiti a un medico se c'è 38 e mezzo, non ci rompere i coglioni. Ascanio, sì, ciao, buonasera dimmi, a tutti. Dimmi. Ascolta, io volevo parlare con il signor Parenzo. Parenzo, ascolti, lei ieri si è scagliato contro un imprenditore di Pesaro, sì. Umberto sì. Carrera. Sì, sì, sì. Grande, un grandissimo, un partigiano, certo, come ha detto. Grande. È un le grandissimo, faccio... un partigiano della libertà. Certo, bravissimo, sì, sì, condivido, condivido Giuseppe. Ascolti, Parenzo, io le faccio una domanda sì. diretta, visto sì, sì. che a volte li fa sempre lei, a noi che chiamiamo, stavolta vabbè, allora... la faccio io. Lei ha mai lavorato, ha mai aperto un'azienda? No, mai, sì, un'azienda no. da solo, sì, un'azienda. Ho la mia partita IVA, la mia piccola partita IVA. Adesso forse quindi, dirò una società, lo... la Parenzo SRL. Vabbè, allora quindi, come quindi la lo sa SRL? Le difficoltà la Parenzo SRL. Di una partita IVA, le difficoltà sempre per grattare il fisco, sempre per grattare il fisco. Scusami, scusami, sempre per grattare il fisco, si aprono società per grattare, per far convogliare tutto là, roba incredibile. Io dico solo una cosa, io l'Agenzia delle Entrate qualche pensierino lo farei, qualche pensierino. Dimmi, dai, Parenzo. Ascolti, sì, questo è il, quello che sta facendo l'imprenditore Umberto sa come si chiama? Si chiama legittima difesa. Ma certo, ha ragione, sì, perfettamente. Io e quindi anch'io ogni anno Parenzo, negozio lei, le mie lei attività. Ha la fortuna, lei ha la fortuna magari di lavorare in certi ambiti un po' più, diciamo, un po' più ambientale. No, non è vero, mi hanno ridotto anche a me i compensi causa allora COVID, l'imprenditore però, che andiamo a intervistare le trasmissioni, ma mi hanno ridotto, guardi, stia pure sicuro che mi hanno, le posso garantire che causa COVID chi si occupa di televisione e radio hanno dovuto per tutti ridurre i compensi causa meno pubblicità. Fermi quindi, tutti, fermi tutti, fermi non tutti. Non si può paragonare quello a un pittaiolo. Quello là è un eroe. Quello certo che non mi paragono. È un eroe, certo che non mi assolutamente paragono. Un eroe. Multatemi, ma una grande testimonianza di libertà. Fermi tutti. La Zanzara. Parenzo, sei un pavido. Prima lecchi il culo a Galli e poi in trasmissione ti sei prostrato davanti a Zangrillo come uno schiavo, come un servo. Vergognati. Sempre viva il Brasile. Negazionista Cruciani che incita alla rivolta perché rivolta? Non può fare aperitivo, non può andare a cena con Efebal, con le sue puttane. Ma figurati. È veramente la cosa più ridicola del mondo. Dopo aver passato un'estate a dire non c'è nulla, i numeri sono gonfiati, uccelli del malaugurio, libertà, adesso incita alla rivolta questo coglione di merda. Cruciani, devi beccarti il COVID e devono bruciarti magari l'auto e casa. Guarda, sarei la persona più felice del mondo. Un consiglio per i manifestanti di Milano, cercate l'appartamento di Cruciani e andate a tirare le vostre molotov sulla sua macchina e verso anche il suo terrazzo, le sue finestre, insomma. Poi vediamo se gli passa la voglia di incitare alla rivolta a questo coglione. Sei una merda, Cruciani. Tirato troppo la corda, a parte esatto. Che fanno delle notizie di una stupidaggine, cioè per esempio fare sesso a distanza, ti devi masturbare, non ti devi toccare, fai sesso con la mascherina, cioè ma pure se uno ti volesse seguire veramente, no? Cioè se uno pensasse, dice vabbè, sono un po' più attento, mi mettono la mascherina nei luoghi chiusi, ma nel luogo all'aperto, cioè all'aperto che cazzo allora serve? Non serve assolutamente a nulla. Ci vuole sempre qualche minuto di Danielina Martani, eh? Magari dopo ci pensiamo, qualche minuto così, qualche botta di Martani. Il momento qualche della squinternata. Scheggia, qualche dici, scheggia sì, di Martani sì. Che tra l'altro insieme a uno dice che la cannabis serve per curare il COVID. Squinternata. La cannabis per curare il COVID. Senti. Uno dei problemi grossi riguardo il COVID è l'infiammazione. Vabbè, con la cannabis, tra i vari benefici che ha, c'è quello di essere un antinfiammatorio naturale. Quindi ci sono degli studi in corso, soprattutto in Canada e in Israele, per capire se effettivamente può essere utilizzata con efficacia per la questione COVID. Allora, c'è un signore, un cretino, un imbecille, un violento, che mi ha mandato questi messaggi. Adesso te li faccio sentire. Questo qua incita sostanzialmente alla violenza, a sfasciare le vetrine, attaccare i poliziotti. Credo che si chiami Andrea, non so, è un nome finto probabilmente, da Roma. Senti, altro, no, ma io non segnalo nessuno, per carità. Niente. Poi ognuno si prende le sue responsabilità. Senti, perché dopo lo voglio chiamare, senti. Ah, io non vi sentivo da un po', perché dopo l'estate mi ero un po' disintossicato. Sì. Mi è capitato di sentire. Che dire, ragazzi? Ormai i nodi vengono al pettine. E quali sarebbero? Il virus, il capitalismo. E l'anticorpi siamo noi, per strada, per le piazze. Confindustria terrorista, sì. Sei il primo della lista. E che te lo dica a fa? Pure Gucci, le vetrine dei Gucci, belle, sfonnate, tutte le vetrine dei Gucci. Ti rendi conto? Poi, poca volta, poca volta, multinazionale dopo multinazionale, vi spolperemo i vostri privilegi dopo che voi avete devastato e saccheggiato le nostre vite. Vi famo un culo così, ricchi di merda. È l'unico virus qui, è il capitalismo. L'unico virus, il capitalismo, e va abbattuto. Confindustria terrorista, Confindustria terrorista, Confindustria infame, Confindustria infame. E perché? Oh, nessuno ancora ha detto una cosa. Tutti che parlano, tutti che dicono, tutti che esprimono giudizi, nessuno ancora ci ha avuto le palle di dire che il problema è il capitalismo, che il capitalismo, il nostro stile di vita, così come stiamo a vivere, non regge sta botta, raga. Preparatevi, perché a forza di voler continuare a perpetrare i vostri privilegi, state avvelenando il popolo. E quando il popolo si avvelena, mi viene a prendere dentro casa, va a prendere le budella, e con le budella dell'ultimo papa impiccheremo l'ultimo re. Non so se ci avete presente che vuol dire. Non ci abbiamo presente perché sei un cretino. Andresti Pazzo. Arrestato per istigazione alla violenza. Gente pericolosa. Però questa ma che? Ma questa è gente pericolosa. No, perché... Quante guardie ci possono stare in Italia? Che ci saranno 200.000, 100.000, 200.000 guardie? Noi siamo 60 milioni. Noi vi rompiamo il culo. Vi rompiamo il culo guardie. Vi rompiamo il culo giornalisti. Vi rompiamo il culo. Chi è? Oi, Pamela. Ancora con Pamela. Non c'è nessuna Pamela qua. Scusa, io sono quella che ti ha chiamato lì, che pensavo che era sempre il pappone. Ma non è Pamela! Non sono il pappone, ancora! Io che ne so, ma mi trovo l'annuncio, a me mi piaceva la cosa, io ti ho capito, ma non sono il pappone, non c'è nessuna Pamela, è un numero sbagliato, lo vuoi capire o no che non sono il pappone? Io che ne so, io abito a Cernusco, sono abito da... Ma non mi interessa dove abiti, ciao, non mi interessa dove abiti, ma non mi interessa dove abiti, non sono il pappone! Incredibile. Ma ascoltami una cosa, perché io... E tu però fatti delle domande del perché ti hanno associato ancora, al pappone. Ma non perché mi hanno messo il è chiaro che uno chiama, cerca la puttana, risponde a un uomo. Ma ti scambiano per un pappone. Io qualche domanda me la farei fossi in te, però. Di che bisogna fare violenza contro le guardie. Io dico soltanto che vanno rese inoffensive, capito? Vanno disinnescate, perché tutta questa solerzia nel difendere i privilegi da parte di sti schiavetti, lo capiscono o sbatteranno la testa contro il muro, poco importa, va bene così. Io sono per sfonnare tutto, Gucci, Prada, tutto, McDonald's, tutto, tutto, vi spaccamo tutto e seripiamo tutto, al Mac Store, mi sembra. Adesso lo chiamo. Pronto? Pronto? Sono Cruciani. Peppino, bello mio, che dici? Bello mio? Ma che cazzo di WhatsApp hai mandato? Ma che sei scemo sei? Ma quali? Di quali? Te ne ho mandati 16. Dimmi di quale stai parlando. Che bisogna picchiare, giusto menare, giusto sfondare tutto. No. Tranquilli tutti, amico bello. No, hai detto è giusto sfondare tutto. È giusto sfondare tutto. Sfondare tutto è giusto. Guarda che la violenza sugli oggetti non è come la violenza sulle persone. No, ma hai detto anche dei poliziotti. Hai detto anche dei poliziotti, ti devi vergognare. Fammi parlare, qua io non mi vergogno, io, cioè, guarda, se ti vergogni te, io ho poco da vergognarmi. Io mi devo vergognare? Mamma mia. Tu devi vergognare perché sei un privilegiato di merda e c'ha la faccia come il culo di dire quello che dici. E te vergogni. Ma hai detto che è giusto picchiare, pazzesco. Hai detto che è giusto alzare le mani sui poliziotti e sfondare le vetrine, hai detto che è giusto sfondare le vetrine. Amore mio, io ho detto che a fronte di vite devastate. Ma da che? Da cosa? Tu sei, hai il cervello devastato. È tutto saccheggiare i privilegi dei potenti. Ma quale saccheggiare? Che è un reato saccheggiare, imbecille. Quale saccheggiare? Questo in galera deve stare. Non vuoi capire che cazzo te devo dire? Qua il capitalismo ha fatto scippare tutte le contraddizioni, no? Ma tu devi andare in galera. Ma tu devi andare in galera. Hai detto che è giusto picchiare pure. Ma lascia perdere. Hai detto che è giusto picchiare anche i poliziotti. Hai detto. Ma sei un coglione, ma te senti chi sei? Ricco de merda, giochi con la gente. Ma va a morire ammazzato, scemo. Ma guarda, ma non te vedi chi sei? Sei un coglione che pia per culo la gente. Cioè, questo fai. Scusa, non ho capito. Tu hai detto che è giusto picchiare le forze dell'ordine e sfondare le vetrine e mi devo vergognare io. Ma tu devi andare in galera. Se io vengo provocato posso reagire, ma a tempo debito. Se tu fai argomentare le persone, allora magari scopri che c'è sta qualcosa dietro, perché è facile. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Imbecille, cosa c'entra? Quando non sai che di insulti e basta. Io insulto, hai detto che bisogna picchiare. Hai detto che bisogna picchiare, vergognati. La mia visione del mondo. Ma non è una visione, saccheggiare e picchiare. Euro al mese, e che se sfondano le vetrine dei Gucci non mi metto a piangere, perché Gucci non gliene frega un cazzo. Ma che dici? Ma che vuol dire? Senti, guarda che ci sono operai e lavoratori, ci sono operai che hanno fatto quelle borse di Gucci, brutto imbecille che non sei altro. E la roba dei Gucci se la va di vende, quelli se passeranno qualche mese tranquilli. Quindi io penso che sia semplicemente questo è pazzo. Riappropriazione. Ma tu vai messo in galera per istigazione a delinquere, per istigazione alla violenza, vai messo in galera. Ma se senti, sei tu istighi la gente a andare in giro a sputarsi l'uno addosso con l'altro. No, veramente io no. Veramente io mai. Vai a morire ammazzato deficiente. Ma questo è pazzo. Sei un giullare. Questo è completamente pazzo. Ma io può darsi che sia un giullare, ma è meglio giullare che teppista. Meglio giullare che delinquente come te che vuole sfondare le vetrine, scusami. Sarò pure un giullare. Quando c'hai la mammina coi sordi, amore mio, è facile parlare quando. Ma che ti ha fatto un poliziotto? Amore, che ti ha fatto un carabiniere? Che ti ha fatto un carabiniere? Ma il carabiniere, guarda che se si comporta bene, potrebbe. Il mio rispetto non ce l'ha per una questione ideologica. Ah, dunque, beh, è giusto picchiarlo. È giusto picchiarlo. Se gli fa quel lavoro nel 2020 è perché ti piace. E allora, e qual è il problema? Comando, capito? Avere la smania, dare gli ordini, capito? Io non la vedo. E allora è giusto picchiarlo. Come l'hai detto tu che è giusto picchiarlo? Se a me uno sbirro mi dice figlio di puttana vieni qua, se cade merda che te meno, e a me se mi parte il quarto d'ora durante gli scontri succede, amore mio. Ma tu gli scontri ce l'hai in testa, in galera devi andare. Ma te vatti a far succhiare cazzo dai tre anni, scemo. Ah, guarda, molto meglio quello che sfondare una vetrina, guarda, su questo non c'è dubbio. Mettiamo che sia così. Possiamo essere posso essere d'accordo, perché ormai sono arrivata all'età che ti do ragione. A 20 anni no, perché non c'avevo quella roba per la testa. Però oggi ti posso pure dare ragione. Guarda, ma vattene a fanculo, va. Ciao. Ma vattene a fanculo del coglione privilegiato ricco de merda. A va a morire ammazzato. C'è una signora che protesta, troppa volgarità, troppo turpiloquio in questa trasmissione. Perché appartiene al mondo della Confindustria, Parezzo? Perché fate parlare un ascoltatore che dice che Confindustria sono degli infami? Che Confindustria è pieno di infami? Me lo chiedo perché hai consentito questo sfregio. Perché è un coglione, perché questi qua vanno messi a nudo dal titolo di un famoso libro, di un noto libro, vanno messi a nudo. Diego da Milano, vai, Diego da Milano. È nudo o nudi? Nudi, Diego. Penso. Da Milano, vai. A Pamela e Cruciani e Pacciani, uno, due, ma tu fai tanto quello che poi vai da Bernardini a presentare il libro e ti lamenti di quell'altro parente che fa il marchettaro e tu sei il primo che va da quel cattolicone bigotto che deve mettere la mano davanti alla copertina. Ma chi è? Quello di TV Talk. Bernardini, l'amico Bernardini, questo è un amico Bernardini. Che tu sei andato a fare la marchetta. Certo, la marchetta per il mio libro, non c'è dubbio. Uno fa un libro, promuove il libro, che cazzo di marchetta è? Quello è pagato, che marchettaro. E poi quando lui ci mette la mano davanti alla copertina non gli dici nulla, che non aveva neanche il coraggio di mostrarti la copertina. Senti, amico mio, Diego, sei un poveraccio. Tu non hai nemmeno la possibilità di fare le marchette, perché sei nulla. sei, essendo tu il nulla, non hai nemmeno la Cruciani. Possibilità di fare hai le marchette. Ragione, uno le marchette le fa no, quando io ha la possibilità la di farle. Dunque, Parenzo, vai in convegni tua... perché no, io pago. No, no. Ma perché lo pagano? No, fare sempre merda addosso agli altri e poi sei il primo che fa la stessa cosa. Ma cosa? Ma che c'entra? Quell'altro lì che c'è a Roma che fa tutto chi? Il perché va al convegno del divano, ma lui sarà libero di fare la stessa cosa, tu fai la stessa, ma il soltanto divano. Che tu sei un ma cosa c'è? Io promuovo il mio libro, coglione, ma che è marchetta quella? Promuovo il mio libro che è una marchetta, no, no, è normale, ma è normale promuovere un libro, Carenti, ma io ci andavo anche prima, rincoglionito, non sai sì, nulla, ma io ci credo proprio che ci andavi, hai visto? Che ci andavi mentre lui metteva la mano sulla copertina. Ma che me ne frega, quello è il suo modo di fare, va bene. Dai, dovevi avere il coraggio di dirgli, tira via la mano, mostra il libro. L'ho detto, cretino. Ciao, ma dai, ciao, ma che cosa ciao. Hai detto? Che l'ho vista la puntata. Diego, quanti anni hai? Seduto? Quanti anni hai? 34. Sprecati, ciao, ciao, ciao. Uno dei capi della rivolta della prima ondata si chiamava Franzoni, te lo ricordi? Fascista, eccetera, eccetera, titolare di varie. Tanti Franzoni, che non... Franzoni, signor Franzoni, signor Franzoni. Dice che prepara una nuova marcia su Roma, non so che cosa. Una... Non mi tutti preparano novità. Manifestazioni. Tutti marce su Roma, no, tutti ma marce su Roma, Roma manifestazioni. Tutti. Questo fa un po' ridere, effettivamente. Probabilmente ce ne sono di più oggi di quelli che la fecero all'epoca. Perché da quanto chiamiamo sembra... Franzoni, dai, chiamiamo Franzoni, ti prego, dai. Non dire di no, non dire di no, non dire che non vuoi parlare ma con Franzoni, dai. Pronto? Pronto? Pronto, ciao, come stai Cruciani? Tutto bene? E come cazzo fai a riconoscere che sono io? Scusa. Ma che c'hai? Sono davanti al telefono e quindi... Ti riconosco dal numero. Che cosa sei? Allora, voglio dire, che cosa stai preparando adesso, Franzoni, per la seconda ondata? No, che, per tu... la terza ondata, perché sarà la terza e decisiva marcia su Roma. Il 15 d'ottobre occupiamo Roma. Ma che occupi ogni volta? Sei andato a pisciare davanti al Presidente del Consiglio? Vuoi andare di nuovo a pisciare davanti al Presidente del Consiglio? No, no, questa volta è la situazione più grave perché c'ho il DASPO che mi ha fatto il questore di Roma. Ah, meno male. Ho 7 capi di imputazione, ma ci vado lo stesso perché carta straccia. Gli che vuol dire? Di Conte, sì, gli ordini di Conte sotto... Gli ordini di Conte hanno fatto in modo che io non potessi andare a Roma, ma ormai il disegno del Covid, vedi... Che vuol dire il disegno del Covid? Spiegami, che vuol dire? Ascolta Cruciani, con un moto anche di orgoglio, ti ricordo che io a febbraio parlavo di 20 milioni di nuovi poveri e del titolo di testa dell'Avvenire, mi pigliavate tutti per il culo. Dicevo che ci sarebbero stati un autunno caldo dai 5 ai 10 milioni di disoccupati, ne abbiamo già 5 e gli altri 5 arrivano nei prossimi mesi. Ho capito, ma di chi è la colpa? Ma tu sei un negazionista, cioè tu pensi che... Pensi che il Covid non esiste? Ti dico di più, è tutto un disegno internazionale. Infatti la famiglia Rothschild, che è imparentata con gli Elkan, garantisce un lavoro di produzione delle maschere alla Fiat e stanno guadagnando Rothschild. Solo loro. Scusa, aspetta, che i ricchi hanno accumulato un patrimonio in questa emergenza Covid che si è innalzato del 30%. Cioè tu stai dicendo, che tu è tutto un disegno globale. Il New World Order che fa capo a Soros che sta creando mondiale, che non è complottismo, non è negazionismo, è capire la realtà dei fatti. No, ma non ho capito una cosa, scusami, tu sostieni sostanzialmente che questo virus è un'invenzione del nuovo ordine mondiale, di alcune grandi famiglie, allora, così? È uno strumento, nelle mani del nuovo ordine mondiale per indebolire l'economia planetaria e scalare l'economia dei paesi deboli. Sì. Cioè, io prevedo che tra 10 giorni ci sarà il lockdown totale. Sì, prevedo, dicono tutti. È scritto dappertutto. Il dramma di noi italiani, sì, no, che ci sono persone come te, termino un ragionamento, è che no, noi, no, non è un ragionamento il tuo, non può film essere. Legion. Noi abbiamo occupato la Gallia. La Gallia. E oggi stiamo diventando una Gallia, provincia della Germania. No, però scusami. Le decisioni, termino. Ma che c'entra? Tu hai messo insieme Rothschild, Soros, sì. New World Order, Merkel. Sì, sì. Ma chi cazzo comanda al mondo, porca puttana? Allora, comanda, che non comandano i governi. I governi sono mere esecutori di una ordine, di una plutocrazia internazionale. Ma l'ha detto, non lo dico solo io, l'hanno detto più persone, mica tutti deficienti. Le persone così sono persone pericolose. Perché è un disturbato megalomane. Allora, quando tu metti un disturbato megalomane, come fai tu, Cruciani, al centro della scena, non dico politica. Ma lui è il classico negazionista. No, lui è il classico disturbato. Non va in giro con la mascherina. No, probabilmente no, non va. Io non la metto la mascherina, ecco, appunto, la vedi. Multa, guarda. guarda. Speriamo che ti mutino. La mascherina è il bavaglio del governo. E perché non apri i bar? Perché non apri i bar anche dopo le 18? Perché non te ne fotti? No, io non li apro perché prendi 5.000 euro di multa e ti fanno chiudere e ti ritirano le licenze. Questo nuovo ordine mondiale dove vuole arrivare? Questo è il punto. Il nuovo ordine mondiale vuole scalare le economie deboli, ridurre la popolazione mondiale almeno di un quinto. Dunque il virus se lo sta inventando? Il virus è uno strumento, non capire, ma è uno strumento nelle mani del nuovo ordine mondiale per riuscire a scalare l'economia, è fatto sta. Vabbè, dunque l'hanno diffuso apposta. Sono già passati nelle mani dei cinesi. L'hanno diffuso apposta sto virus, che hanno fatto? Scientificamente l'hanno gettato per indebolire tutte le economie deboli. L'Italia è un'economia debolissima. Capito? Franerà. L'ordine è distruggere l'Italia, la sua economia e soprattutto i ceti sociali deboli. Gli asset economici franano, arrivano e questo sua eccellenza tedeschi, ho capito, ci comprano tutto. E questo sua eccellenza non l'avrebbe permesso. Sua eccellenza benito. Avrebbe fatto diffondere il virus della società. Ma la storia non c'entra, non conta. Sì, ho capito, però non conta né fascismo né comunismo. Amico mio, conta la realtà dei fatti. Tu un po' fascista sei, diciamo la verità. Dai. Questo governo ha generato 20 milioni di nuovi poveri, 10 milioni di disoccupati. Vanno cacciati immediatamente. Cacciati, occuperemo tutti i palazzi di potere. Ma dove? Questo è interessante. Il 15 di novembre vi facciamo vedere. Il 15 novembre probabilmente non ti muovi da casa. Occupiamo i palazzi di potere a partire da Montecitorio e poi cacciamo la maggioranza e l'oppo finzione, perché noi in Italia abbiamo l'oppo finzione. Vabbè, Parenzo, che dici? Che dici questo qua? No, dico che la situazione è piuttosto allarmante, perché rispetto al passato lui aggiunge al dichiararsi fascista, che ormai vabbè è un idiota, poco male, anche delle turbe psichiche molto pesanti e peggiorative. Non sono comunista io. Non sono comunista. Non sono comunista. Fare le trasmissioni televisive. Perché sono comunista. Sono comunista, sennò sei un idiota che va a fare. E Mario Giordano, perché gli fa fare la trasmissione invece? Disse l'idiota neofascista. Che sono migliori. Scusa, ma i morti del coronavirus per te sono veri o no? I morti della prima ondata sono morti per colpa di questo governo che ha sbagliato il protocollo. E adesso e questi di ora sono comuni morti che non muoiono per il Covid, ma con il Covid. Ma che ne sai? Poi, come tutte le influenze, ti ricordo, e forse tu non lo ricordi, che nel 2018 ci sono state 7,5 milioni. Dunque tu te ne fotti completamente. Completamente. Totalmente. È un virus normalissimo. Bravo. Come l'influenza. Bravo. Però se te la prendi... Pazzesca, se te la prendi io non voglio pagarti l'ospedale. Questo virus ha una differenza rispetto agli altri, è altamente contagioso, ma non è pericoloso, contagioso. Questo dice lui. Quindi, se te lo prendi io non ti pago l'ospedale della terapia intensiva. 3.600 posti letto alla sanità del Lazio. Vabbè. La sanità non organizzata e quindi frana sotto i colpi di una malattia che di per sé è pericolosa. Ciao, buona serata. La Zanzara. Luciani, ho appena chiamato la mia pediatra, ho due bimbi piccoli e per noi il vaccino non c'è, in regione Lombardia i vaccini non ci sono e non sanno quando arriveranno, quindi a Parenzo digli che non basta solo andare dal dottore o dal pediatra, ma in realtà bisogna chiamarsi anche Parenzo per ottenere qualcosa in questo paese che fa schifo. Ciao. Glielo spiegate voi alla Martani che dopo le parine del Delta Cortene negli ospedali sta andando da mangiare la carne rossa. La carne rossa. Altro che pancia piena di verdure. A Martani! Eccola qua, David, riappare tra noi mamma, colei che dice che non si infetterà mai. Daniela Martani, eccoci qui. Ho capito perché stanno male negli ospedali se gli danno da mangiare la carne rossa, ma mica li fanno morire soltanto di coronavirus, li fanno morire pure di tumore, poi gli verranno tumori, gli verrà un ictus, gli verrà un infarto. Adesso scusami, però non è che porta nera sta squinternata. Ecco. Aspetta ma un attimo. Squinternato sarai te, ma tu le leggi? Ma tu sei mai andato sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? Dunque, ma non capito, secondo te bisognerebbe togliere la carne dagli ospedali? Dai menù degli ospedali? Ma scusami tanto, non ho capito. Seguiamo, allora già l'abbiamo l'abbiamo detto 200 volte questa cosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha detto. No, non diciamo è vero, noi. Non no. è vero, non è vero. World Health Organization. E vedrai che ti ho detto che la cosa. L'altro giorno ti ho sentito dire una cosa sul sesso, ma Daniela. Ma hai cosa detto, fa tutto il giorno questa scuola? Hai detto, beh, adesso ci vogliono dire pure come si fa sesso, no? Perché Pregliasco ha detto che bisogna solo farsi ma le sedie. Ma non lo fa mai, che gliene appunto, frega dico, che cazzo te ne frega te, non l'ho capito. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ma perché parli di sesso? Che te ne frega di quello che dice? Sbagliato, per carità. Pregliasco, quando a te non ti interessa la vicenda, non ti interessa l'oggetto, dai, su. Ma intanto io non dirò mai le mie situazioni sentimentali o sessuali eventualmente ma in sono diretta. Nulle, sono morte. Ma non nulle. È vero, dai. Non è vero per niente. Cioè, tu oggi ti slingueresti con qualcuno tranquillamente, certo, che conosci? Sì, sì. C'è anche uno che non conosci così tranquillamente di uno che non conosco, no, cioè purtroppo è difficile. Guarda, ti posso dire una cosa? Allora, chi è single come me, purtroppo, sì, qua adesso sì. Fa veramente fatica. Ma chiediti perché? Perché sei una scarsa cazzi. Come fai a conoscere una persona nuova? Che devi fare? Devi andare su Tinder per forza, devi andare lì e cercare qualcuno. Però io non ce la faccio, perché non è che riesco a scegliere una persona scorrendo delle foto, perché non perché è che mi affitta uno che è un perché è difficile oggi? Perché non è che io vedo uno che è buono e dico ammazza, questo me lo voglio scopare, perché io voglio conoscere le persone, a me piace la testa delle persone. Dunque, avendo chiuso bar, giusto, attività sociale, giusto, eccetera, capisco, eccetera, brava. Tu dici una single come te, sapien del culo, esatto. Adesso, in senso. Certo, sapien del culo, quindi io arriverò a 50 anni che rimarrò single per colpa di sti stronzi del governo. Beh, capito, che hanno deciso che lei, mi devono tenere in casa. Hai se capito? Lei adesso era single prima del Covid, quindi vuol sì, dire esatto, che lei è una sì. rompicoglioni, sostanzialmente, questo vuol dire. No, no, io lei è molto carina, buttata in una vasca da bagno e no, lavata caro, dalla testa guarda, ai piedi sarebbe senti, anche forse accettabile, guarda, probabilmente. Parenzo, ti do una notizia. Io però sono lei gli deve uomini essere che mi, sì, mi questo è vero, piedi. Questo devo sì, dire. Posso istituto di salute mentale. Posso testimoniare. Posso testimoniare. Posso testimoniare. C'è un sacco di gente che gli va dietro. Lei non vuole scopare. Ragazzi, c'è poco da fare. Non gli va a scopare con una cazzo di cane. Non gli interessa scopare. D'amore. Ma che storia d'amore, porca la gran puttana. A differenza tua, caro Procruciani, a differenza tua. Ma tu non ti masturbi nemmeno. Ma non ti masturbi nemmeno. Questa è la cosa incredibile. Ma che me frega? Ma perché devo fare con una cosa di gomma se invece posso avere uno dei. Ma perché col dito? No, scusami. Col dito no, perché col ma dito che, no. Ma non ci non provo, perché ci deve essere una connessione proprio mentale ma con ma, la persona scusa, con ti guardi, con hai un'immagine di qualcuno, ti, non c'è qualcosa che ogni tanto ti fa bagnare, ti fa eccitare, ti fa diventare. Ma, cioè ci sarà qualcosa, sì. Uno si masturba e via, che ne so. Pensi no, a me, no, non no, mi no. puoi pensare ogni tanto e masturbarti. Oppure pensi che ne so, a Parenzo, pensi a Parenzo. Io penso a te quando sai quando è che penso a te, quando vedo che ti mangi una bistecca e che ti sei mangiato la qualsiasi, penso a te, mi viene da vomitare. La secchezza vaginale, ti viene la secchezza vaginale. Ma perché? Ma scusa, Cristiano Ronaldo, te lo scopresti tu, Cristiano Ronaldo? Così poco mi immagino. Ma oggi lo dovrei conoscere, no? Io non ci riesco a dire questa. Io dovrei conoscere, parlarci, vedere se mi interessa. Allora, cioè, oggi, però, Cristiano Ronaldo ha detto che i tamponi sono una buffonata. Cioè, giustamente, sono ha detto una cosa giusta. Tra l'altro, una fregnaccia. Senti, tu, guarda, Parenzo, tu hai rotto il cazzo. Mo te lo una dico, fregnaccia. Sai perché? Te lo dico, sai perché? Perché tu, siccome c'hai il culo parato, ok? Che c'è ancora almeno un anno in radio, ce l'hai. Almeno un anno in radio, ce l'hai. La gente che sta morendo di fame, non c'ha più il lavoro. Ma non vuol dire niente. No, vuol dire, allora io vi voglio dire che non è che l'ha detto Ronaldo che i tamponi non servono a un cavolo, l'ha detto Walter Ricciardi, ricordiamo, è una stupidaggine, Walter Ricciardi, il ministro, ragazzi, il è vero che sono inaffidabili totalmente, questo non c'è dubbio, detto, che siano totalmente inaffidabili. Errore fare i tamponi agli asintomatici, questa cosa l'aveva detta a febbraio, come mai adesso è cambiato tutto, come mai stanno cercando tu, così, in Francia 70.000, come la Martani come affronterebbe 70.000 contagiati in Francia, no? Ma, oggi ma pare 50-60. Ma scusami, non avete notato che hanno cambiato la parola? Non dicono più contagiati, dicono casi, vuol dire casi, vuol dire che non sono contagiosi, capito? Che non sono contagiati, no, che, non sono malati. Casi vuol dire che sono persone che hanno un potenziale che tu non sai di quanto possono infettare. Ti volevo dire una cosa, hanno detto, ho letto di questa dichiarazione del cardiologo del Sacco di Milano, quasi piangendo, dicendo che sono al collasso, non riescono sì, più a contenere. Sì, sì. Ecco, allora adesso c'è c'è il video di una ragazza che poi ti manderò, che è andata lì. Sì, no, l'ho visto. Ah, sì, ecco, non c'è manco l'ambulanza, non c'è nessuno nel pronto soccorso. Ma ti stanno prendendo per il culo, puro. Capito? Siamo al negazionismo puro. Cioè tu dici che ci stanno prendendo per il culo. Ragazzina, fatte la doccia, date la sciacquata. Grazie tanto che mi chiami ragazzina, perché comunque sono doccia. Date una lavata, date una bella ripulita e date una svegliata pure. Ma perché la consideri una mente gatta? Non capisco perché la... Ma che mente gatta? È anche poco la mente gatta, la squinternata. Lui non legge le dichiarazioni dei medici che stanno decidendo per la nostra vita. Cioè, se poverina, è anche carina. Se tu la vedi così lì per lì, dici, beh, è anche carina. Poi è un errore, ok? Non si va neanche a informare per vedere se veramente Ricciardi ha detto questa cosa. Basta andare su Google. Ha detto una scemenza, infatti. Ma chi? Ricciardi ha detto una scemenza. E chi ha detto che ha detto una scemenza? Invece, ma Crisa, perché tutti ormai... L'hai sentito Palù ieri parlare? Palù ormai, l'hai sentito ieri? Sì, certo, parlare, non l'orso ecco. Palù, non Balù, Palù, no. Palù, non Balù. Ho detto Palù, quello Palù, è l'orso, Palù. Palù. Comunque, oggi, fermi tutti. Oggi è stato annunciato che forse a aprile ci sarà un vaccino. Tu ti rendi conto, Daniele? Forse a aprile ci sarà un vaccino. Tu, pur di non farti fare un vaccino, che cosa faresti? Se te lo imporranno il vaccino, cosa farai? Se mi impongono il vaccino, no, allora questa cosa ma non potrà mai imporrà. Ma io me ne vado a vivere alle Seychelles, non c'è. Vai, evviva, vai pure, cioè, vai con i cani, portati anche i cani. Addirittura il passaporto sanitario, perché questo vorranno fare, ma ormai è chiaro, loro vogliono arrivare al controllo totale, sì, dal punto di vista sanitario, mettendo di paura per un'influenza. Ma scusami, tu hai fatto i vaccini da bambina, te li hanno fatti i tuoi genitori o no? È dello 0,08%. Il vaccino contro il meningococco te l'hanno fatto da bambina, te li hanno fatti o no? Ma dietro c'è Bill Gates o no? Fermo, ma dietro c'è Bill Gates un po' o no, secondo te? Un po', c'è Bill Gates o no? Beh, certo che ti viene un po' da pensare, visto che anni fa lui disse che ci sarebbe stato un virus che avrebbe creato questo caos. Insomma, bastava essere degli studiosi. Lui ha interessi economici, a uno dei finanziatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi? E quindi ha interesse alla pandemia. Ma tu sei squinternata folle. 7 miliardi di persone, quanto ma lui guadagna, mica ci guadagna dal vaccino, lui fa altre. Lui ha dato tutto alla sua fondazione, ma che cazzo dici? Ma sei fulminata, ma sei una fulminata, sei leggi, studia, fulminata, ma che hai letto il titolo dei siti negazionisti, hai letto il titolo, fulminata. Noi siamo persone che ci facciamo, sei persone che fulminata. Ma tu ancora vai in giro, a abbracciarti normalmente con le persone, normale, senza mascherina, normale, tutto normale. Io sono sempre senza mascherina, non mi sono mai sanificata le mani, sono andata tra l'altro a tutte le manifestazioni, ero anche a Roma quando la prima sera hanno buttato le bombe carta Piazza del Popolo, ho violato anche il coprifuoco, lo dico tranquillamente. Mamma, quindi, mia, che eroe, poi non mamma ho problemi mia, adesso in questo eroe momento proprio. Sono a casa di amici, sì. Siamo insieme, bravi, quanti siete? Se ti contagio siamo... non pago il servizio sanitario per te, eh. Quanti ma io siete? Pago manco il servizio sanitario per te, che te mangi la carne e se ti fai dovessi, venire il tumore, l'infarto, se qualsiasi altra cosa. Ma infarto, se ti ammali, vai a finire in ospedale, perché devo pagare io? Non ho capito, scusa. Ma non ho capito, quanti siete stasera? Siamo cinque questo momento. Cinque pori stronzi. Ma perché? Non ho capito. Ma pori stronzi di che? Perché non possono stare cinque dentro casa, adesso decidi tu se stare. Ma perché bisognerebbe evitare di stare cinque dentro casa? Non ho capito. Se non si convive, sì, certo. Io non invito nessuno a cena a casa mia in questi giorni. Paese. Comunque senti, rimaniamo sempre dell'idea che tutti questi VIP che si stanno infettando non fanno un cazzo. Anche stanno Carlo Conti, tutti, dai, devo trovare uno, ma quando morirà uno forse che conosciamo, che è famosissimo, allora ci potremo anche credere. Macron dice cosa... situazione drammatica in Francia, la Martani dice non è vero un cazzo. Ma guarda, senti, la cosa è incredibile, ma voi ci fate caso che comunque ogni volta che parla la Francia, la Germania, il Belgio, allora... sono queste nazioni qua che decidono poi qual è via da seguire, quindi l'Italia a cascata segue. Vedremo come veramente dei sudditi, queste nazioni. Ciao Daniele, ciao. Emanuela da Roma, vai avanti tutta, dai Emanuela, dimmi Emanuela. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Io sono una medico di un noto nosocomio romano. Nosocomio, vicino, addirittura? Sì, vicino al quartiere Prati. Io nosocomi non esistono là al quartiere Prati, scusami. Un ospedale molto famoso, che di cui non posso fare il nome, certo che esistono, bravo David. Esistono i CIM, no, esiste. Vabbè, allora... sì, tra un paziente Covid e l'altro ho visto Parenzo in TV L'aria che tira, e devo dire che è sempre bellissimo. Anzi, volevo approfittare per invitarti. Successo, Parenzo, che cazzo stai per invitarti a cena, signora Emanuela, la ringrazio. Lei cena. Cara Emanuela, intanto grazie per questo suo apprezzamento. Quanti anni ha lei? Ma che te ne frega a te? Aspetta, cioè, cosa te ne frega a te? Verifico. Io ho 30 anni. 30 anni, diciamo medico, che... 30 anni medico. Esatto. Io la ringrazio per questa proposta, però ho 4 figli, sono impegnato e quindi... Ma che cazzo parlare di Europa, di devo euro? Ma che devo garantamente rifiutare? Nel senso che, parlare ma di Europa... Ma fare una sega per telefono, no? No. Fatti dare il telefono, ti fa una sega per telefono. Ma no, perché mai dovrei... Mentre tutti dormono, vai in... Ti do un consiglio. Ti do un consiglio. Quanto tutti quanti dormono a casa tua, vai in salone, ti colleghi con la signorina e ti fai una sega. Ma secondo te, ti faccio una domanda, avendo a casa mia delle persone, secondo te dorme qualcuno a casa mia? No, perché a turno si svegliano tutti sì, i bambini. Sì, ma tu trovi il tempo, la signorina Emanuela è disponibile, ti metti là col telefonino e ti fai un segone guardandola per telefono. È ottimo la sega telefonica con la WhatsApp, il video WhatsApp ormai è superato. Voglio passare un mio collega, guarda, non voglio passare. Niente, ciao, sì, ciao, sì, ciao, ciao, ciao, ciao. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Caro Greg, mio padre è stato in polizia per 40 anni ed è una montagna. Ecco, anche adesso che è in pensione potrebbe aprirti la testa e cagarti in gola. Ciao. Buffon Movistar. Allora ragazzi, la Francia, allora, in tanto venerdì, per dirti. Aspetta, in Francia in Francia venerdì lockdown perché siamo sommersi dal coronavirus. Situazione molto seria. Aspetta, ha detto sì, lockdown in Francia da venerdì. Grazie a cazzo, te sto dicendo che lockdown e tu ridevi. Io non ridevo un cazzo. Qui in Germania lockdown ridere. Leggero. In Germania lockdown leggero. Beh, dal leggero. 2 novembre. È peggio del nostro per adesso. Esatto. Quello che lei, la Merkel, considera leggero è chiusura ristoranti, bar, teatri, cinema, palestre. Aperti negozi, asili, scuole. Come e manifestazioni in Italia, sportive. Aspetta, no, senza no. Spettatori. No, no, no, come in Italia, peggio dell'Italia perché i ristoranti saranno chiusi anche durante il giorno. Esattamente. Però aspetta, esattamente. Aspetta, le restrizioni saranno accompagnate da un nuovo pacchetto da 10 miliardi di euro per garantire ai locali costretti a chiudere il 75% del fatturato di novembre se hanno meno di 50 dipendenti. Beh, anche qui lo faranno, eh. Ma non mi sembra, non mi sembra. Anche qui. Allora, intanto il 75% però. Sì, ci 75... saranno, anche lì ci sarà una zanzara francese, sì. Dove ci sarà un Cruciani francese, sì. Che si scaglierà meno contro male. Macron, no. E gli dirà che è un maledetto fallito, che bisogna fare liberté, liberté, liberté, liberté, può liberté. Essere, può essere, lì può arriva essere. La gendarmerie. Io guardo all'Italia e ti sbatte guardo il galera per fortuna. Ma che sbatte il galera un cazzo. Ieri Sgarbi è stato in un ristorante a Sutri. Male. Sutriland, no? Sutriland, non so, Sutristan l'ha denominato. Insieme a 6 persone, oltre l'orario di chiusura. Indovina chi c'era insieme a lui? Il signor Diego Volpe Pasini. Te lo ricordi? Sì. Signor Diego Volpe Pasini. Poveretto. Chiamiamolo, ti prego. Diego, una nostra vecchia conoscenza. Diego Volpe Pasini. Fu anche consigliere di Berlusconi, pensate. Pronto? Volpe Pasini? Sì. Ah, eccolo, eri alla cena di Sgarbi ieri. Vittorio mi ha chiamato, mi ha detto che nello stato libero di Sutristan c'era l'inaugurazione di un ristorante dedicato al Presidente del Consiglio e se volevo andare a bere un bicchiere di vino, e sono andato a bere un bicchiere di vino. Beh, adesso non minimizzare, dai, su, eri lì a fare... Assembramento non autorizzato. Disobbedienza civile. Assembramento non autorizzato. Non eravamo assembrati, non bisogna essere autorizzati. Ma senza mascherine, tutti senza mascherine. A tavola non c'è la mascherina. Assembramento in un orario non autorizzato. Sei un irresponsabile, ma questo no, già vedi, purtroppo... Vedi. la sapevamo. Sei un parente. Irresponsabile. Tu, no, non è caro, godi, non è caro Parenzo. Non godo di niente. Di avere gli stipendietti che ti arrivano. Ma quali stipendietti? Ma non dire scemenze. Noi purtroppo lottiamo con un presidente del Consiglio che ci apre e chiude a suo piacimento. Ma non è che apre a piacimento. Una cosa seria? Chiuda completamente tutto, chiuda le scuole, chiuda tutto. E ci tenga a casa se ha tanta paura che ci infettiamo tutti. Ci tenga a casa tutti per un altro mese, ma non così, non così, non in questo modo. La Francia assurdo. Oggi va verso la chiusura totale per 30 giorni, purtroppo. A nessuno piace la parola lockdown, a nessuno. Chiuda tutto, perché tiene aperte le scuole e le metro? Io non ho capito perché tu devi fare il pirla, devi fare il pirla quando ci sono migliaia di ristoratori, di persone che purtroppo rispettano le regole, fanno la richiesta per avere direttamente il risarcimento che questa volta perché deve arrivare. Perché è un atto di disobbedienza civile, grande atto di disobbedienza. È una guasconata del cavolo. I miei locali sono chiusi, io li chiudo alle 18. Quanti soldi stai perdendo da questa roba, Volpe Pasini? Quanti soldi perdi? Io ho perso di incasso almeno 1,5 milioni in questi 6 mesi, almeno. Un milione e mezzo dai, ma figurati. Guarda, i miei collettivi sono all'agenzia delle entrate tutti i giorni con i scontrini telematici e comunque ragazzi andare in un ristorante oggi in un ristorante chiuso è un atto di disobbedienza civile, punto e basta. Un grande diciamo stupidaggine, diciamo. Se il tuo se quello che si chiama come te presidente del consiglio avesse detto manteniamo la distanza tutti seduti dalle 18 in poi, nessuno seduto al banco, va bene. Abbiamo preso più tavoli, più ombrelloni, i cosi, investito un sacco di soldi nei pannelli, nel distanziamento, un metro da un tavolo all'altro. Abbiamo fatto tutto quello che ci hanno chiesto, tutti quanti. Comunque lì eravate, lì con Sgarbi eravate vicinissimi, vicinissimi. Eravate vicinissimi, ma abbi il coraggio di ammettere, eravate vicinissimi senza mascherina, ve ne fottete. Cioè, questo allora, è il punto. Prima di tutto a tavola senza mascherina si sta, perché se si beve si mangia non si mette la mascherina, prima cosa. Secondo, Vittorio ha fatto un'ordinanza sindacale per cui nel suo comune si poteva stare come a Bolzano e come a Trento. Sì, ma non è che a Sutri, non è che Sutri, non è che Sutri è uno stato a parte. Appunto. Dai, Bolzano e Trento cosa sono? Cosa sono Bolzano e Trento? Ma ho capito, ma bisogna perché dire che Bolzano e Trento possono stare aperti. Perché sbagliano, infatti. Vogliono a Roma no. Perché? Perché lì sono ma lì infatti sbagliano. Ma Parenzo siccome lì va bene e da noi no. No, io non dico che va bene, anche lì devono rispettare la legge, però siccome è purtroppo però ma non è tutto uguale. Sutri è nel Lazio! Sutri è nel Lazio! È quella di quelli che vanno a parlare in televisione che sono stati bandiati. Noi ci stiamo rimettendo tutto! Ma noi chi? Tu sei stato tutto della tua vita! Sei un inventore di cazzate! Liste fasulle! Coglione! Liste fasulle! Hai fatto solo liste fasulle! Ti stanno facendo buttare nel cesso una vita! Ma facendo chi? Ma chi sei tu? Cosa rappresenti? Che cosa rappresenti tu? Il nulla! Il nulla cosmico! I miei dipendenti, ma che quale? Di giugno, ma, di luglio, sì, non ricevono la cassa integrazione. Ma quali dipendenti non tu? Non ricevono luglio la cassa integrazione, sono 22 in cassa integrazione adesso, ok? E vergognati di quello che dici, vergognati di quello che dici. Ti devi vergognare. A Trento e a Bolzano lavorano, vanno a sciare, e non è Italia quella, male, sbagliato. Vai lì a dire che chiudano, Parenzo, certo, nella regione autonoma, a dire che chiudano. Dovranno chiudere anche lì, anche nella regione autonoma è un'anomalia che tengano aperto. Strapagato da tutti, ma strapagato da chi? Ridicolo, creatore di partiti fasulli, creatore di partiti fasulli sei, un creatore di partiti fasulli. Andate a vedere chi è Basini. Appunto, e non la puoi rappresentare tu. Non la puoi rappresentare tu perché è una cosa seria. Ridicolo. Non si scherza con sta roba. Lo dico io a te che non si scherza. Taroccatore. Non ci danno un termine, non ci danno un cazzo. Non ci danno niente, non arrivano aiuti, non arriva niente. Allora, quelli che dicono che gli ospedali sono al collasso, allora quelli che dicono io adesso faccio il Parenzo. Quelli che dicono gli ospedali sono al collasso. Ma non è quelli. Cosa hanno fatto questi? Ma cosa vuol dire? Durante l'estate al Sacco di Milano, all'ospedale Sacco, gli ospedali sono al collasso, si rischia di morire. Non hanno aperto centri Covid ovunque. Ma questo è un altro problema, cosa c'entra? Certo. Hanno insultato verso l'ASO, anche tu tu hai insultato Bertolaso? Mai insultato Bertolaso io, anzi. Ah, come no? A non dire cazzate. Non l'ho mai insultato. Non dire minchiate. Senti, tu sei la persona meno credibile al mondo. Andate a vedere chi è Volpe Pasini, un creatore di liste civetta false. False, false. E quindi cosa ci fai? Un partito? Cosa ci fai adesso? Un partito? Ci fai un partito? Che ci fai adesso? Una lista? Un partito ci fai? Ma è incredibile, sei. Sei incredibile, vergognati di strumentalizzare le cose. Apparenzo, prima mi hai detto pure che è stato in galera Volpe Pasini. Ma questo io non lo so, me ne frega niente dove è stato lui. Sono stato 5 giorni in galera. Me ne frega niente, poveretto. Quello se è stato in galera non mi interessa, poverino, mi dispiace. E adesso magari si è... Non c'è niente da dispiacermi. Se uno va in galera mi dispiace. Ma è strano. Finire, ma non è che sia normale, però scusami, non è che sia così normale, capita nella vita di tutti di finire in galera, questo consentimelo. Mi dispiace, hai pagato quello che dovevi pagare, ma non me ne frega nulla della tua galera. Finisci in galera chiunque, pure tu, con i pare che... Speriamo di no. E poi ti chiedono scusa, ok? Ma infatti quello non me ne frega, è Cruciani che l'ha tirato fuori, a me non me ne frega nulla di dove sei stato. Mi interessa l'oggi, e sei la persona meno credibile a parlare di questa roba. Tutti, ed è a cascata, perché io non compro più vino, un altro non compra più la carne, un altro non compra più il pesce, un altro non compra più la verdura. Dai, su. Che è un meccanismo pazzesco di economia che va a puttane. Pazzesco. Ciao, ciao Volpe, pazzesco. Ciao. Ciao Volpe, ciao, ciao. La Zanzara. Dai Cruciani, continua sempre a soffiare sul vento, accendi questo fuoco, dai pezzo di merda, continua così, brutto pezzo di merda. Questo messaggio è per Parenzo. Parenzo, ma tu ti rendi conto che quando parli dei commercianti, quando parli dei ristoratori, tu di quello non capisci una beata minchia? Ma tu sai cosa significa per un ristoratore perdere il 70-80% del fatturato? Tu sai cosa significa per un dipendente di quei ristoranti, bar, pub perdere il posto di lavoro e non poter mettere un piatto di pasta sul tavolo per la propria famiglia, per i propri figli? Ma tu che cazzo ne sa della vita reale, che tu stai nei tuoi salottini, champagne, il servo? Ma tu che cazzo ne sa della vita reale? Ma tu che cazzo capisci questa storia? La gente, la percezione, quella che tu chiami la percezione, è quello che tu hai, capito? Alimentato di me in questi anni. È colpa mia. Io sono una persona che lavora. Sei una vittima praticamente. Che non ho, sei una vittima del sottoscritto. Sono una persona che lavora. Sei una vittima del sottoscritto. Ma delle tue minchiate. Dimmi se non dico cose corrette. Dimmi quando dico la cosa. Sì, dimmi. Sono un lavoratore dipendente io? No, non sei. Sono una partita IVA? Sì. Ogni anno devo negoziare il mio rapporto di lavoro? Sì, più o meno, adesso non esageriamo. Ogni anno devo negoziare il mio rapporto di lavoro. Agenti, eccetera, gente che rappresenta, che ti rappresenta in tutte le sedi possibili immaginabili, avvocati, comunque lasciamo perdere, ma non è un lo stai dicendo come se avessi degli spalleggiatori, degli strozzi, ma di cosa stai parlando? Di cosa parli? Aspetta, criminale. Che è successo? No, dicevi, scusa. Questo rumore su un fondo? Uno che dava delle sculacciate sul culo a una. Adesso fra poco ce l'abbiamo. Perché nella radio della Confindustria ci deve essere uno che sculaccia una persona? Aspetta, ti faccio sentire ancora. Aspetta. Sculacciate sul culo. Ma mandiamo i carabinieri a casa, scusa. Ma perché se lo sta sculacciando? Se le sta facendo male, scusa, mandiamo i carabinieri. Gennaro da Caserta, aspetta, Gennaro da Caserta, vai, Gennaro, dimmi. Buonasera. Senti, dimmi. Il mio intervento era un altro su Sgarbi, però prima ti devo dire una cosa. Perché non fate una bella cosa, visto che adesso è Natale, no? Sì. Minimo tra te e Parenzo prenderete tra stipendio e tredicesima 20.000 euro. Perché non prendete 10.000 euro e li date di contributo ai ristoratori che hanno subito? Vediamo, vediamo, una buona idea questa qua. Vediamo, vediamo di fare qualcosa. Gennaro, non ti preoccupare. Non me lo devi dire tu dall'alto della tua. Delle tue pigne che hai in testa, capito? Tu non lo devi dire tu. Una pizza. Io ho speso più soldi ai ristoranti di quanto tu non hai speso in vita tua. No, qua fermo, fermati, non ti allargare. Ma tanto prenderai 20.000 euro. No, ma c'è sì, molto di più. Ma c'è un errore madornale. Tu hai speso. No, le persone che ti hanno invitato a cena hanno speso in ristoranti. È uguale. Da quando ti conosco non hai mai aperto quel cazzo di portafoglio. No, io non ho tredicesima. Giovanotto, io la tredicesima non ce l'ho perché non sono lavoratore dipendente. Ma non ti buttare, no, tu non sei. Io pure sono una partita IVA, ma faccio il camionista autonomo. Quindi non prendo anch'io. Quindi non lo so io quanto guadagna lei, quindi non lo so. Molto poco guadagna, un morto di fame, dai. Un morto di fame, brava. Sarà un morto di fame, e sarà un morto di fame, e sarà un morto di fame, una persona che guadagna poco. Ma un morto di fame, uno che lo vedi che è giusto, un morto di fame, ho detto giusto. Un morto di fame. È un morto di fame. Voi siete signori. No, ma vanno assistiti i morti di fame, vanno aiutati i morti di fame in questo, soprattutto in questa circostanza. Ma aiutati. Morto di fame tu sarai, perché nel momento del lockdown l'hai detto tu che sei un morto di fame. Grazie a noi auditi, ma l'hai detto tu stupido, ti abbiamo portato la roba sui scarfali per farti mangiare, imbecille, ingrato quello che sei. Ma figuriamoci, abbraccio tutti gli autisti, tutti i camionisti. Tu dovresti prendere 20.000 euro al mese tra tredicesimo a Natale. Noi, la gente si deve puzzare di fame, perché con 10.000 non andresti bene lo stesso? Una ridistribuzione dei poteri economici. Non puoi immaginare i cazzi che ho io. Ciao, ma vai a fare in culo, Gennà, ciao. Mi si stanno ribaltando con. Aspetta. Senti gli schiaffi. In collegamento da Milano, credo, dalla provincia di Milano, dove abita una ragazza di 31 anni, nuovi lavori, caro Parenzo, faceva la hostess, come quell'altra di prima, la hostess della Litalia, la signora Martani. Lei invece per Airitali, si chiama Sabrina Ice, è il suo nome d'arte, da qualche mese si è data al porno. Si è data felicemente al porno. Tu non saresti contento, naturalmente, se una ragazza della tua famiglia di 31 anni si desse al porno. No, in alcun modo. Invece tu invece è abbastanza felice. Io non lo so, non tocco. Cara Sabrina, buonasera. Come stai, innanzitutto? Bene, benissimo, grazie. Senti, bene, allora, 31 anni, voglio capire se prima di affrontare questa esperienza col porno, da un paio di mesi, immagino, no? Sì, però da luglio. Sei già sulla strada del sesso abbastanza estremo, che lo chiamo così. Sì, cioè. Sì, vabbè, estremo un po' meno, in privato un po' meno. Cioè, in privato un po' meno in che senso? Non ho capito. Un po' meno, non è che non fai le doppie anali. No, le doppie anali non penso che le faccia nessuno a casa. Cioè, tu dici nel privato non sei come nei film, cioè le doppie anali che tu hai provato. Non le fai nel privato le doppie anali? No, le doppie anali nel privato no, non si fanno. Ma chi se ne frega? Ecco, cosa scusami, Sabrina, cioè, l'altro giorno è venuta da noi una persona che tu conosci che si chiama Sara Slave. Quella signora Sara Slave ha sostenuto una cosa, che la doppia anale, questa è molto interessante, perché tu hai praticato, no, a Praga, anche tu, in questo posto che è praticamente diventato la Mecca del porno, moltissime giovani italiane vanno lì per incassare del denaro, giustamente, perché secondo me ognuno del corpo fa il cazzo che vuole. La signora Sabrina Ice, 31 anni, ex assistente di volo, è stata licenziata da Italy, ha detto: sai che ti dico, a me piace scopare, non mi vergogno di farmi vedere, immagino di farmi vedere, esatto, anzi è un po' anche esibizionista. Esatto, vado a Praga dove si guadagnano dei soldini e farmi fare, caro Parenzo, la doppia penetrazione chiedo scusa se interrompo un secondo questa domanda. Un importantissimo dirigente televisivo italiano, un CEO dice: siete i conduttori più insultati nella storia dei media molto buono. Questo è importante, CEO, di cui questo non è molto posso buono, in alcun molto modo buono. Fare i nomi. I conduttori più insultanti nella storia dei media mondiali, media, dice, forse mondiali. La storia dei media mondiali. Però scusa, fai un po' di attenzione alla signora Sabrina Ice, che è un personaggio molto posso interessante. Dirti una cosa? Non me ne frega un cazzo della signora Sabrina. C'è zero, perché? Nulla. Ma perché nel giorno in cui tu sta parlando Macron, dove sta venendo giù il disastro, ma scusami, c'è tu di fronte a Macron. Io sono più importante di Macron. Ma scusami, di fronte a Macron che parla e di fronte a questa qua che magari ti apre il suo di dietro. Ma che cosa scegli tu? Non mi interessa la signora. Posso dire che ma se mi dicono non mi interessa, porca miseria. La signorina Ice, che si chiama Ice, poi scusa. Vorrebbe che le aprissi il mio di dietro? Ma io non voglio, non le ho chiesto niente, signora. Io lo daresti il culo a Parenzo, signora Sabrina? Ma guarda, dipende. A me lo daresti? Ma sì, assolutamente, due botte me le farei dare. Ah, due botte me le faresti dare? Sì, è una voce molto eccitante, Cruciani. Cioè, due botte se le farebbe dare. Mi lascio solo, io vado così preparato. Ma manca ancora 6-7 minuti. Cioè, due botte veramente te le faresti dare. Ma come ti piace farti dare due botte? Cioè, tu incontri uno che ti piace, no? Anche nella vita privata, beh, nei film è un'altra questione. Cioè, com'è che ti faresti dare due botte? Vabbè, lo porto a casa, ci provo, lo porto a casa e mi farei prendere per i capelli, buttare sul tavolo. Cioè, ma anche in un angolo, cioè anche in una... violentare, anche in un angolo, sì. Cioè, ma tipo violenza così, tipo come se fosse una specie di violenza. Mi piace la violenza. Cioè uno che ti prende così e ti costringe, ti piace. Le cinghiate sul culo. Ah, ti piacciono le cinghiate sul culo? Sì, molto. Ma non è normale, signora Sabina? Perché non dovrebbe essere? No, non sono normale. Ah, ecco, vedi. No, cioè, scusa, perché ha votato lei alle ultime elezioni, signora Sabina? Ma non ha votato. Il voto rimane segreto, signor Parenzo. Però è molto vicina all'area dei sovranisti, lei, comunque, degli anti-europeisti, cioè, in generale. Dei salviniani, vuol dire, dei salviniani. Ti faresti frustare, ti faresti prendere la cinghiata da Salvini? Sì, non ho altre domande. Da Salvini subito. Non ho altre domande. Guarda che il porno lei va a Praga, dunque è una transfrontaliera, cioè è una persona che è l'emblema, vediamo com'è, non del sovranismo. Su Instagram vediamo com'è Sabrina. No, non esiste su YouTube, devi andare Sabrina Ice su YouPorn. Su Instagram sono la persona più bannata del mondo perché continua. Esatto. Qual è Sabrina Ice? C'è una Sabrina Ice? Scusami signora Ice, però io voglio chiedere una cosa. La doppia anale sosteneva Sarah Slave, dibattito che si potrebbe aprire per le poche persone che praticano questa cosa, perché non credo che ci siano molte donne che praticano la doppia anale, anche se la signora Malena ha detto che gode moltissimo con la doppia anale. Malena, sì, che... anch'io sono venuta 5 volte. Però come 5 volte, scusa? 5 volte? 5 volte sono venuta. In una scena? In una scena, sì, assolutamente. Con la doppia anale. Però voglio capire, è davvero meno dolorosa dell'analisi del singolo, diciamo, della singola cosa? Non credo. Sì. Cioè, perché a me è piaciuta molto di più. Cioè, vabbè, che ti sia piaciuta, d'accordo, ma è meno dolorosa. Cioè, è meno dolorosa, sì. A parte che tu non senti più dolore, perché ormai, diciamo, sei ampiamente. No, vabbè, addirittura. Non si lo chiude so. Subito poi. Ah, si chiude subito. Ma tu fai anche tu fai esercizi di stretching al culo? No, sinceramente no. No, tu non li fai. Non li ho fatti. Cioè, e quando hai fatto anale per la prima volta? Hai 31 anni, ma tu pratichi anale da tanto sì, tempo? Sì, da un po'. Cioè, da quando eri ragazzina, diciamo. No, vabbè, ho iniziato a 29 anni. A 29 anni con l'anale. Te lo ricordi il tuo primo anale? Sì, mi ricordo. E come fu il tuo primo anale? Uno shock oppure un godimento assoluto? Beh, un pochettino uno shock, fa male all'inizio, però dopo ci si abitua e si... Spiegami una cosa, tu ti consideri nella vita sessuale, diciamo nella vita privata, sessuale, una gran porca? Se uno te lo dice, sono una gran porca, ti eccita oppure è una cosa insultante? No, mi eccita, assolutamente. Cioè, ti definiresti nella tua vita sessuale, privata, ripeto, non nel porno, anche prima di fare il porno, una gran troia, sì o no? Sì, ma io l'ho sempre detto. Cioè tu l'hai sempre detto apertamente, sei un po' zocco, una gran troia. Ma perché la realtà, ragazzi, ma io dico una cosa, il linguaggio deve essere cambiato. Cioè la grande rivoluzione del linguaggio deve essere anche enorme questa. La signora Sabrina Ice dice sostanzialmente: io sono una gran troia e se ne vanta. Senta, di essere signora, lo sei dice contenta per così, signora mia, noi siamo felici per lei, signora. Dai, felici per lei, se lei vuole essere definita così siamo felici per lei. Dai, scusa, quando facevi la hostess eccetera, hai avuto qualche ti sei fatta qualcuno in volo, ecco, tanto per capire, insomma, tanto ormai sì, è tutto capitato. Ma con con uno dell'equipaggio oppure con un passeggero? No, l'ho fatto con un passeggero. Come con un passeggero? Militare. Con un militare che la passeggera. Come cazzo hai fatto? Tanto ormai è fallita, ridali, che cazzo ti frega? Esatto. Anche per quello probabilmente è fallita. Cioè un volo di notte ti sei chiavata un coso? Un militare, un passeggero che poi faceva anche... Dov'è? In bagno? Dove avete fatto? No, nel ghelli dietro, quella che chiamano tutti la nostra cucina. Ah, nella vostra cucina? Cioè sei riuscito a portarti una là, che cazzo avete scopato? Che cosa avete fatto? Sì. Vabbè, non si può dire tutto, no? Ma come non si può dire tutto? Hai detto che ha detto delle porcherie inenarrabili, ha detto fino ora. Su! Scusa, ma il tuo ideale qual è? La dominazione o essere dominata? No, essere dominata. Preferisco essere dominata. Cioè, preferisci anche essere perché schiava, nella vita sono molto dominante e quindi nel sesso preferisco essere dominata. Strano che queste dichiarazioni non siano nell'apertura dei giornali online che sto visitando ora. È strano. Questa sua allora, cosa. In prima pagina. Scusami un attimo, Macron annuncia il lockdown lockdown sommersi dall'epidemia, sì, serve un colpo, sì, di freno brutale. Anche, serve attenzione anche, alle se, parole chiave. Ma serve anche Sabrina un colpo di freno ma brutale. Un colpo di frusta sul culo serve in questo momento. un colpo di cinghia, di pelle però. Cioè, a te piace molto farti frustare, farti prendere molto a cinghiate. Cioè, godi proprio, cioè raggiungi l'orgasmo anche solo con questo? No, non solo con quello. No, però ci vuole questa roba qua. Sì. E le piace, e ricordiamo, e le piace Salvini, perfetto. No, tanto ricordiamo, no, ha detto serve, che si farebbe frustare prendere la cinghiata da Salvini, cioè prendere la cinghiata. Beh, sì, tu dici ha la faccia anche da maialone, no? Cioè, sì. O no? Cioè, che cos'è che non faresti mai nel sesso? Cioè, questo voglio capire, cos'è che non faresti mai? Allora, non mi piace fare scat. Sai che cos'è lo scat? Non ho la minima idea, penso di non volerlo sapere. Vai a vedere che cos'è lo scat, poi te lo dico. Scrivo, poi che cos'è che non ti piace? E poi non mi piacciono gli schiaffi in faccia. Però No, gli schiaffi in faccia piacciono moltissimo, a tantissime donne piacciono gli schiaffi in faccia. Stai scherzando? Scusa, in questo prestigioso video che io prima ho mandato solo l'audio, aspetta un attimo, ecco questo qua. Tu sei preso ogni tanto a schiaffi in faccia? Poi dipende dalla situazione. Ah, ho capito, nei video. Cioè, tu per esempio fai di tutto, anche il pissing ti piace molto? Sì, molto. Anche l'ho scoperto da poco. Ah, come nel privato oppure nella professione? L'ho scoperto con la professione, però lo faccio anche nel privato. Lo fai anche nel privato, cioè sei lì e ti prendi. Quindi lei sia intramenia che con la legge, sa, sì, che esatto, hanno fatto nella sanità, sia, cioè sia nel privato che nel pubblico. Esattamente. Sì. Cioè, ti piace farti pisciare addosso, diciamo la verità. Sì, mi piace. Ma anche bere un po', no? Pure, questo è importante. Che porcheria. Non si manda giù perché fa male. Che tipo di istruzione ha avuto lei, signorina? Niente, faceva l'hostess. Che vuoi? L'istruzione avrà avuto anche lei. Avrà la quinta elementare, che le superiori avrà fatto. Le superiori? Ho fatto istituto tecnico. L'istituto tecnico? I suoi genitori, lingua estere. Ma i suoi genitori sono felici di questa sua, come dire, scelta di lavoro, di professione? O... Si può cambiare domanda? Saranno incazzati. Secondo lei? Comunque, la signora Sabrina Ice è un esempio di libertà, perché a un certo punto aveva bisogno di quattrini, immagino, ha sfruttato una cosa che le piace, cioè il sesso, perché l'ha fatto. Beh, infatti non è solo per quello, io l'ho fatto perché mi piace, non perché. Cioè, perché ti piace proprio farti chiamare da 3-4 in contesto. Le gangbang, ti piacciono le gangbang? Certo, molto, sì. Cioè, le facevi anche prima, 3-4 persone, sì, insieme? Sì. Caro Parenzo, che ti devo dire? La vita è questa. Cioè, la vita è questa. Se le piace così, è questa. La realtà è questa. Ti abbraccio, Sonia. Bisogna abituarti. Ti abbraccio. Aprire la mente. Ciao, Sabrina. Italiani! Siamo vivi ancora! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.